si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Ufficio della Casaleggio Associati. Siamo qua dentro, una specie di catacomba dove aleggiano gli spiriti, quelli buoni. Noi siamo qua dentro per quasi cospirare, parlare di cose che sono assolutamente proibite fuori o pericolose, onestà, lealtà. Cosa potremmo rimpiangere del 2014 che se ne va? Renzi, le balle di Renzi, che cosa potremmo rimpiangere? Un attentato alla democrazia o alla Costituzione di due partitelli, il PD e il PDL, ve li ricordate? PD meno L, sembra cose del passato remoto. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, prima puntata del 2015 di Si può fare. Buonasera da me, Alessio Maurizi, ma anche da Giorgio De Luca, Lucia Tolve, questa sera in redazione. Bentornati tutti e due dopo i bagordi e dopo le vacanze. Filippo Reggi in regia. Il discorso di fine anno di Beppe Grillo, un flop secondo i dati riportati da alcuni giornali, un flop perché, pensate, l'anno scorso il discorso di Beppe Grillo messo sul blog e poi su YouTube fece 1 milione di click nel giro di qualche settimana. Adesso, io ho controllato poco fa, siamo a 18, 19, 20 mila visualizzazioni, cioè un crollo verticale delle visualizzazioni del video di Beppe Grillo, ma su questo torneremo tra poco, perché i supereroi, sentiamoli, della canzone, sono loro, i vigili urbani di Roma, naturalmente, con una percentuale dell'83% di 83% di assenze nel notte di Capodanno. Del resto questo è il sogno di chiunque di noi, qualunque automobilista, una giornata senza vigili urbani che siano lì a far multe e insomma a darti fastidio. La storia la sapete, la spiegazione che è stata data, anzi sentiamola, perché noi abbiamo sentito nel pomeriggio Focus Economia Simone Spezia, uno dei sindacalisti dei vigili urbani di Roma, Lulli. A proposito intanto delle cifre dei assenti la notte di Capodanno, sentiamo. Può sembrare alta, diciamo, nei confronti del cittadino può creare un sospetto, ma per noi non è sospetto, però per carità, se ci sarà un'inchiesta della magistratura, diciamo, gli atti sono a disposizione dell'amministrazione, va a vedere tutto. Noi su questo non mettiamo assolutamente in dubbio che l'amministrazione non deve fare accertamenti, non deve fare quant'altro. Ci sono i medici di famiglia che hanno certificato, quindi per e noi poi anche, reati, anche è questo. La vicenda è quella, insomma, della rotazione, se abbiamo capito bene, c'è un piano anticorruzione voluto da Cantone, non solo a Roma, che prevede incarichi a rotazione in tutta la pubblica amministrazione per evitare che ci siano legami di corruzione, possibili scambi di mazzette, eccetera, eccetera, che riguarda anche i vigili urbani. Credo che sia questa la questione. E contro questo piano, insomma, si è scatenata una protesta strisciante, però allora fai uno sciopero, dico io, anziché metterti in malattia. Ne parleremo tra poco, tra l'altro, con il vice sindaco di Roma. Adesso però risentiamo un pezzettino di discorsi a confronto Napolitano e Grillo. Sì, dobbiamo bonificare il sottosuolo marcio e corrosivo della nostra società e bisogna farlo insieme, società civile, Stato, forze politiche, senza eccezione alcuna. Il problema dei problemi poi non è neanche la mafia di Roma, l'Expo, il Mose, perché ci stiamo abituando a questo marcio, ci stiamo abituando, forse ci stiamo abituando e non lo percepiamo neanche più, è la percezione quello che ci arriva, ecco perché bisogna parlare sottovoce. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, cominciate da subito a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare tutto quello che sentite, come sempre naturalmente, ma anche se volete in questi primi giorni dell'anno, e andremo avanti fino a che non ci saranno le dimissioni di Napolitano e non si comincerà a votare, anche per fare un po' di Toto Quirinale. I politici non si sbilanciano, non vogliono fare nomi, non ci sono nomi che circolano, in realtà sui giornali ci sono i nomi e voi ascoltatori ne avete fatti parecchi qua dai nostri microfoni. Io riepilogo così, tanto per rinverdire un po': si è parlato di Amato, si è parlato di Prodi, qualcuno di voi ascoltatori ha parlato anche di Berlusconi, Emma Bonino piace molto agli ascoltatori di Radio 24, ha raccolto molti consensi. Poi c'è anche un inatteso Sergio Romano, l'ambasciatore Sergio Romano, che insomma agli ascoltatori di Radio 24 piace e lo hanno segnalato in diversi. Poi c'è quella che io ho chiamato la triade di ferro della Prima Repubblica, che riemerge, chissà se avrà qualche chance la triade di nomi che vado a fare per il prossimo Quirinale: Fini, Casini e D'Alema. 800 24 00 24. C'è anche chi ha detto Samantha Cristoforetti, sarebbe meraviglioso, non so però se ha 50 anni, Emma Marcegaglia oppure Roberto Benigni. 800 24 00 24. Una bella, bellissima, meravigliosa notizia con cui partire anche questo anno di Si può fare, ma soprattutto per tutti noi questo 2015, è la guarigione del medico di Emergency contagiato dall'Ebola in Sierra Leone, Fabrizio Pulvirenti, che tra l'altro ha detto che è intenzionato a tornare in Sierra Leone. Sentiamolo. Tornare in Sierra Leone, sì, è nei miei progetti. Non appena, la prima cosa che devo fare è cercare di ricostruire il mio tono muscolare perché è andato perduto, e successivamente rivaluterò la possibilità di tornare in Sierra Leone, anche se per un periodo limitato, ma comunque voglio andare a completare quello che ho iniziato. Oh, io già me li vedo, i titoli di Libero, che scriverà così: torna in Sierra Leone così si ammala di nuovo e dobbiamo curarlo noi, un'altra volta, a spese nostre. Io però ve lo dico, questo pensiero non riesco proprio a farlo, mi sembra un pensiero, ammesso che poi i titolisti di Libero ci stiano pensando, o comunque che qualcuno ci stia pensando, mi sembra un pensiero brutto, insomma, che cancella quanto di realmente umano e generoso c'è in una persona come il dottor Pulvirenti e altri come lui, che in fondo poteva starsene a casa tranquillamente sul divano senza andarsi a contagiare di Ebola in Africa. Tant'è. 800 24 00 24, anche su questo, cari ascoltatori, vi vogliamo presenti tra poco. Adesso lo abbiamo annunciato, è con noi il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora Nieri, che dire, intanto non so se ha sentito, noi abbiamo fatto sentire un pezzettino del sindacalista Lulli, dei vigili urbani, che quasi anche ridimensiona le cifre. Le cifre degli assenteisti la notte di Capodanno sono, ce le può ripetere, la notizia ce la conferma? Sì, sì, la confermo, sono 835 assenze. Sui 1000 che erano stati preventivati. Quindi la percentuale, diciamo, c'è una percentuale un po' superiore a quella che ha detto, dell'83,5%. Sì. Cioè si calcola facile perché su 1000 viene facile. Esatto. Il denominatore, il moltiplicatore, adesso faccio dico delle cose che non dovrei dire di matematica, però insomma, 83%. Tutti con certificato di malattia, questi 835? Questa è la verifica che si sta facendo, che dovremmo saperne di più, diciamo, ormai c'è in corso questa indagine interna che in tempi rapidissimi ci darà bene il quadro di che cosa realmente è fatto questo numero di assenze. Comunque principalmente la notizia è uscita che erano quasi tutti certificati di malattia, questo è? Sì, anche se il comandante della Polizia Municipale ha dato proprio l'incarico, sì, ufficiale per un'indagine interna. Però scusi, per non andare a lavorare come si fa? Cioè, io almeno a casa mia qua in azienda, se non vado a lavorare è perché porto un certificato di malattia, altri casi sì, non ce ne possono essere. Beh, diciamo sì, è uscita nella giornata anche che ci sono stati dei donatori di sangue, però insomma sinceramente la vicenda insomma va Va capita bene, perché è chiaro che noi siamo di fronte a un fatto straordinario, che è stata la notte, questa grande festa di popolo che ha voluto brindare al 2015. 600.000 persone hanno invaso il Circo Massimo, per cui una festa straordinaria. Lo dico perché poi dobbiamo anche vedere il dato positivo di quella serata, per cui Roma come al solito risponde in termini straordinari. No, ma questo sì, nulla toglie naturalmente, è giusto che lei lo dica, perché essendo il vice sindaco della città ha il diritto e il dovere di dirlo. Lo dico perché è ancora più grave quello che è successo, perché in realtà poi ci sono stati invece del personale della Polizia Municipale che invece quella sera ha permesso che questa festa... E magari ha dovuto fare anche il doppio lavoro, forse. Perché si è svolta senza nessun neanche un piccolissimo incidente, per cui dobbiamo ringraziare poi questi lavoratori. Ma sa com'è, lei è giusto dirlo, perché è chiaro fare generalizzazioni, no, sui fannulloni, nel pubblico impiego, ci sono mele marce da tutte le parti. Sicuramente, insomma, se era una protesta strisciante, come qualcuno, i sindacati stessi oggi lasciano trapelare, adesso le faccio sentire anche un altro pezzettino del dirigente sindacale Lulli a proposito del tema della rotazione. Se era così, forse uno fa una protesta sindacale vera e propria, fa uno sciopero nei limiti delle regole consentite, ma non si mette a casa in malattia. Questo però, diciamo, interpreto il pensiero di molti, ma è questo il punto? Cioè la resistenza a questo piano di rotazione che prevede cambio di incarichi e forse anche di orari di lavoro, che non va giù ai vigili urbani? Allora io li voglio dire subito, io come ho già dichiarato in più occasioni nella giornata di oggi, mi batterò fino all'ultimo mio respiro per il diritto di sciopero in questo paese e perché ci sia qualunque tipo di confronto anche aspro di carattere sindacale, ma quello che è successo non c'ha niente a che vedere appunto con una protesta sindacale. Le proteste si annunciano, stiamo parlando del pubblico, stiamo parlando di un bene comune che è appunto il Comune di Roma, stiamo parlando della capitale d'Italia, e per cui non è assolutamente accettabile. Ho capito, non è accettabile, però cioè lei rifiuta il nesso tra le due cose? No, io non lo rifiuto, se addirittura viene dichiarato da qualche sindacalista, questo dico che è gravissimo, perché non c'entra niente, perché oltretutto era stata annunciata una protesta, c'è stato anche il confronto con il prefetto, quel tipo di protesta non era attuabile, cioè fare un'assemblea nella notte tra il 31 e il 1 gennaio, e per cui non c'erano forme di protesta in corso, forme di protesta camuffate, e queste non si possono fare perché appunto danneggiano la capitale del paese. Tra l'altro, ma oltretutto danneggiano tutto, anche i loro colleghi che sono andati a lavorare. Adesso sentiamo un passaggio del dirigente sindacale Lulli quando parla proprio del tema della rotazione, sentiamolo. Noi diciamo che la rotazione va applicata come dice la legge, né più né meno, noi anzi vogliamo che la legge venga applicata, questo per farle un esempio. Quindi ci state, siete d'accordo con la rotazione? Noi siamo d'accordo con la rotazione come dice la legge. E quindi? In queste prime rotazioni che l'amministrazione che vuole fare ci sono persone che sono malate con malattie gravissime, ci sono persone che a 3 mesi vanno in pensione, ci sono persone in cui non c'ha nessun senso quella corruzione, noi diciamo devono essere spostate quelle persone che individua la legge. Vice sindaco, le risulta che ci sono persone gravemente malate coinvolte in questo progetto di rotazione? Questo era stato denunciato anche durante un incontro a cui avevo partecipato io, ho verificato direttamente con il comandante della polizia locale, mi risulta a me, ma è quello che realmente è accaduto, che c'è stato un vero e proprio ascolto di ogni persona che aveva problemi, perché i problemi esistono tra i dipendenti, e tutti sono stati affrontati, per cui a Roma, dato che appunto siamo a Roma, bisogna dire chiaramente, non bisogna buttarla in caciara, ecco. No, però io mi permetto una cosa, lo dico rivolto a chi come il sindacalista, il dirigente sindacale Lulli, ha tutto il diritto di ricordare che ci sono delle persone malate che devono avere delle tutele speciali, che se però le malattie sono quelle certificate, per esempio dagli stessi medici che nella notte di Capodanno hanno fatto l'83% di certificati di malattia a meno che non ci sia stata un'epidemia, qualche dubbio è, cioè, lecito averlo. Per fortuna a Roma epidemie non ci sono state, se non quella appunto di una bellissima serata a cui hanno voluto partecipare tanti cittadini, anche stranieri, anche turisti, perché quando diciamo sì, del danno d'immagine dobbiamo pensare a questa nostra capitale. Ma probabilmente non si sarà accorto di niente nessuno, a meno che, perché non è che per una notte ci sono meno vigili in strada salta tutto, insomma, però chiaramente dovrebbe far riflettere anche chi ha pensato a quel tipo se parliamo di una protesta. Io rifiuto l'idea che dietro questa vicenda si può far riferimento a una protesta, perché le proteste si fanno in altro modo, soprattutto nel però pubblico. Una cosa le voglio chiedere, perché tutti adesso sono saltati sulle sedie. Renzi ha detto ecco perché riformeremo la pubblica amministrazione, il ministro Madia ha detto cercheremo dei responsabili, lei è titolare della pubblica amministrazione, quindi diciamo che è un po' l'amministratore di condominio di tutti i dipendenti pubblici, lo stesso comune, state facendo delle inchieste eccetera, ma non si poteva proprio far nulla, per esempio banalmente mandare la visita fiscale, non si può fare questa cosa, ma si può fare, certo, come no, l'avete fatto? Adesso l'amministrazione, il corpo della Polizia Municipale ha una sua organizzazione, così come prevede proprio la legge, per cui saranno stati fatti sicuramente tutti i passaggi e nell'inchiesta emergeranno. Questi sono, tutto questo dobbiamo tenere conto che è avvenuto nella giornata del 31 e per cui questo è chiaro che lascia qualche dubbio, no? Nel senso che è evidente che è strano che, appunto, come ha detto lei, non essendoci stata per fortuna nessuna epidemia a Roma, che ci siano 835 persone che improvvisamente gli capita, sì, qualcosa per non poter andare. Adesso me l'auguro, spero che qualche visita fiscale, se non altro per verificare che ci sia stata o meno un'epidemia, l'abbiate mandata, perché o chi è responsabile dell'ufficio, lo stesso comandante, da chi dipende mandare la visita fiscale? Assolutamente, questo io do per scontato che sono state attivate tutte quelle procedure che avvengano quando appunto un dipendente si dà malato, perché poi noi adesso dobbiamo parlare che stiamo parlando di un gruppo molto considerevole che sta danneggiando l'intero corpo, che è fatto di circa, numero più, numero meno, 6.000 persone. Senta, vice sindaco, scusi, resti un attimo ancora in linea con noi, se ha ancora due minuti, dobbiamo fare la pausa per il traffico, le voglio fare ancora una domanda e poi se ha tempo anche sui sanpietrini, perché anche questo, diciamo, è tema di discussione, i sanpietrini. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta, 800 24 00 24. La vicenda da cui siamo partiti è quella dei vigili romani malati nella notte di Capodanno, con il vice sindaco di Roma Luigi Nieri, a cui però questa vicenda l'abbiamo abbondantemente affrontata. Voglio chiedere un'ultima cosa, riguarda questa vicenda dei sanpietrini. Ora, una cosa normale e giustificabilissima come cambiare il manto stradale e migliorarlo nel centro della città è diventata un polverone. Bastava forse non usare la parola vendere i sanpietrini, c'è stato un problema di comunicazione? Ma probabilmente sì, comunque non, l'idea dell'amministrazione è assolutamente di non vendere, anche perché insomma rimaniamo coi piedi per terra. Quello che vogliamo invece fare, questo è vero, è quello che ha dichiarato il sindaco, è laddove i sanpietrini non sono più consoni al traffico locale, alla mobilità, riuscire a fare delle isole pedonali di qualità nella nostra periferia. Questo è l'obiettivo che avevamo dall'inizio, questo è quello che vogliamo fare, perché vogliamo rendere la città sempre più bella, e quando dico città nel suo complesso, e per cui l'attenzione che questa amministrazione, che il sindaco Marino stanno dedicando alla periferia, anche questa adesso purtroppo poi anche i mass media si concentrano su alcuni argomenti poi li dimenticano, per noi rimane una priorità riuscire a rendere tutta la città vivibile nel modo migliore, con appunto anche interventi di grande qualità, e questo appunto di riuscire a fare almeno in ogni municipio uno o più isole pedonali diventa un obiettivo fondamentale in quella parte di città che di solito viene chiamata periferia, ma che insomma noi vogliamo rendere di qualità come il resto della città. Speriamo Roma, che ci riusciate, perché nella periferia è un obiettivo, ha dei punti di grande straordinario. È un obiettivo importante, condivisibile. Viva le isole pedonali nelle periferie e nel centro. Grazie, almeno per quanto mi riguarda, al vice sindaco di Roma, Luigi Neri. Buona serata e auguri. Buona serata, auguri. Grazie. Auguri, ecco. 800 24 00 24. Andiamo con Luca che ci chiama dalla provincia di Lecce. Buonasera. Salve, buonasera. Prego. Io praticamente riguardo la questione dei vigili volevo semplicemente dire che a mio avviso è quasi scandaloso questo assenteismo di massa apparentemente ingiustificato, soprattutto in un periodo sociale storico come il nostro, dove c'è questa crisi del lavoro e questa disoccupazione, e qua è una sorta di vergognoso schiaffo nei confronti di tutte le persone giovani o adulte che sono senza lavoro o che sono alla ricerca disperata del lavoro. Lei mette in relazione, secondo me anche giustamente, diciamo, quello che è successo con la crisi occupazionale che c'è, il che rende la cosa ancora più scandalosa dal suo punto di vista. Lei ce l'ha un lavoro, Luca? Io sono uno studente col sogno di diventare ricercatore e già adesso mi imbattono i primi, diciamo così, ostacoli. In bocca al lupo. Auguri, grazie, buona serata. Alfonso da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Niente, io sono d'accordo anche con Luca, giustamente il discorso è sempre lo stesso, praticamente che c'è gente attualmente, anche diciamo i ragazzi, i nostri figli che stanno crescendo, che stanno facendo salti mortali per avere un lavoretto anche da guadagnare 700-800 euro al mese, fare le notti, fare la qualsiasi cosa. E poi sentire dire che notte di Capodanno non vanno a lavorare perché giustamente vanno a festeggiare oppure stanno a casa, oppure comunque la colpa è pure dei medici di base, perché non è possibile fare questo. Se io capisco se realmente una persona è ammalata, dice beh è ammalata, beh, certo, vada a lavorare a casa, però giustamente fare questo è uno schiaffo veramente alla povertà e alla moralità della gente, alla dignità del lavoratore italiano, perché giustamente noi stiamo uscendo pazzi per trovare un lavoretto ai ragazzi che si sono laureati, che sono usciti da un'università dopo che hanno fatto 5 anni di sacrificio e tutto, e non c'è un lavoro neanche, ma proprio neanche per pulire, una volta c'erano le ditte delle pulizie, sì. Non c'è niente, non si trova niente. Se si trova qualcosa e dice guarda non ti posso registrare, ti posso dare 300-400 euro al mese, cioè questi sono i risultati. E loro che hanno un posto di lavoro, un pane nella capitale d'Italia, purtroppo poi succedono queste cose, si sente dire che quello il vigile di Capodanno ha mandato il certificato, che poi magari l'altro è andato a donare il sangue il 31 dicembre, vigile di Capodanno. Cioè voglio dire, sono cose che uno ci resta malissimo, perché... Grazie Alfonso, lei ha ragione, cioè dell'amarezza, anche lei, lo chiedo anche a lei, lei lavora? C'è un lavoro? No, io diciamo sono in pensione. Fortunatamente, diciamo da un lato, però sfortunatamente per motivi di salute. Va ecco. Bene. Però se... voglio dire, un figlio di 25 anni che sì. Dice papà, anche andare a lavare le scale, anche a lavare, perché è giusto che io mi devo magari comprare la pizza il sabato, non ti voglio dare, puoi sentire dire che è un posto di vigile urbano. Va bene Alfonso, grazie, buona serata. Tra l'altro un altro ragionamento è questo, i medici, io vorrei che questa sera ci chiamasse qualcuno che fa il medico in vita sua, medico di base, di quelli che fanno i certificati, no, di malattia, e così ci raccontasse come va questo rapporto, diciamo, ce lo può raccontare anche nell'anonimato di una telefonata, se questa cosa si fa di fare i certificati, perché non è possibile che puntiamo il dito contro i vigili urbani, la polizia municipale, 83%, 800 su 1000 a casa col certificato di malattia, ma il certificato di malattia qualche medico gliel'ha pur fatto, e anche questa è una cosa che, ripeto, o c'è stata un'epidemia oppure è una cosa che merita una spiegazione, tutto lì. Carmen da Piacenza, buonasera. Buonasera, sì sono d'accordo con lei, perché a questo punto bisognerebbe anche controllare come mai i medici facciano queste certificazioni, ecco. Infatti il problema soprattutto dell'Italia sono i controlli, i dirigenti e i controlli. Vabbè, io volevo intervenire per un'altra cosa, sì. Fare due nomi diversi da quelli che ho sentito che lei ha nominato. Sì. Parliamo di Toto Quirinale, penso. Sì, sì. Infatti, allora uno sarebbe lo storico Lucio Villari, che secondo me è una competenza estrema, è una persona pulita. Ma perché onesta. Uno storico secondo lei? Un cattedratico? Sì, perché professore. È una persona competente e pulita. Ma competente in cosa? In questo caso in, diciamo, nella storia. Nella storia. Per cui nella politica dovrebbe essere anche abbastanza competente, perlomeno insomma. Io ritengo che sia una persona che potrebbe essere nominata, sì, almeno messa in il suo nome. E poi l'altro, Domenico De Masi, che è un sociologo, cioè due persone che si interessano della vita civile della gente, ecco. Va bene, aggiungiamo, grazie Carmen, al nostro parziale elenco di Toto Quirinale, degli ascoltatori di Radio 24 di Si Può Fare, aggiungiamo anche Lucio Villari e Domenico De Masi, in coda con Sergio Romano, direi che è quello un po' il settore. Mario da Ascoli Piceno, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, piuttosto che piangerci addosso che i medici fanno i certificati, sì, ci basterebbe una semplice legge. Lei fa il medico? No, io sono un imprenditore. Okay. Basterebbe una semplice legge, sì, che attesti che qualsiasi professionista, medico in questo caso, che rilascia falsi certificati, perde l'iscrizione al ruolo e perde le convenzioni con la USL. Se qualcuno, si fanno controlli a campione, se ci sono delle false certificazioni, il dottore viene automaticamente cancellato dall'albo e non può più esercitare. Voglio vedere qual è quel dottore che fa i falsi certificati. Sì, è posto, come diceva Carmen, che poi ci sia qualcuno che controlla e che questi controlli li mette in atto, facciamo dei controlli a campione, sì? Vada un po' lei da sto dottore a farsi fare un falso certificato, col rischio che lui possa rientrare nel controllo a campione e se riesce a farsi fare un falso certificato. Quindi basta una legge a costo zero. Qualsiasi professionista che rilascia un'attestazione che ha valore verso lo Stato o autocertificazione o altro, che rilascia una falsa certificazione, viene cancellato dall'albo. Va bene, mettiamo agli atti la proposta di Mario da Ascoli Piceno di, come potremmo dire, di estromissione dagli albi professionali, ma anche dalle convenzioni pubbliche, dei professionisti che fanno certificati falsi, in questo caso certificato medico di malattia falso. Salvatore da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, lei a sua precisa domanda, il prosindaco Nieri ha detto che sicuramente è convinto che sono state attivate tutte le procedure e quindi sarà stata chiesta la visita. Però non lo sa, però non lo sa, è vero. Non ha detto. Però dice che, sì, però dice che non lo sa. Io penso che lui lo sappia benissimo, almeno voglio sperare che lo sappia, perché uno che fa il vice sindaco a Roma e non sa neanche qual è la procedura, probabilmente dovrebbe andarsi a riversare qualcosa. La procedura dice che lei durante l'orario di lavoro della ASL deve chiedere la visita medica, nominativa e compagnia cantando. Visto a che ora non si sono presentati i vigili urbani, sicuramente la ASL era chiusa, quindi lei non può chiedere niente. Al limite può mandare un fax e stia tranquillo che il giorno dopo la visita medica non arriva, e questo i vigili urbani e tutti coloro che vanno scioperi all'improvviso si sentono male all'improvviso. Cioè lei dice lo sapevano e anche su questo si sono basati per fare questa forma di protesta strisciante. Salvatore, dobbiamo fermarci qua, grazie, se male lo riprendiamo dopo il giornale radio 80024 0024, a dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Non bastavano i vigili urbani di Roma, ci volevano anche i cancelli chiusi di Pompei il giorno di Natale e di Capodanno. I turisti rimasti là davanti si sono fatti il selfie, hanno cominciato a girare sui social network, qualche giornale ha scritto articoli, apriti cielo, polemica, Pompei chiusa a Capodanno, ma come, coi turisti lì davanti? Il ministro Franceschini ha precisato, guardate che a Capodanno il British Museum, il Louvre, il Prado sono tutti chiusi, di che ci stupiamo? Non lo so. Io intanto saluto e gli faccio gli auguri di buon anno al sovrintendente di Pompei, Massimo, professor Massimo Osanna, buonasera. Buonasera. col quale ci siamo già diciamo così, intrattenuti in altre circostanze per parlare dei progressi che si sta cercando di far fare a Pompei. Uno dei beni, diciamo, primari su cui veramente l'Italia deve puntare tutte le sue carte. Le chiedo così intanto un commento su questa notizia che è andata su tutti i giornali, eccetera, eccetera. Cioè, è giusto quello che dice Franceschini? Guardi, Pompei è aperta tutto l'anno. E gli unici due giorni chiusi sono Natale e Capodanno, e abbiamo aperto il 25 aprile, abbiamo aperto il 1 maggio, quindi diciamo siamo in controtendenza rispetto al mondo per aperture del sito. Ecco. Ora, tra l'altro, l'apertura di Natale e Capodanno è canonicamente, normalmente, una chiusura ordinaria. La nostra carta di servizi, sì, che abbiamo anche nel web, lo dice: la chiusura di il sito è aperto tutti i giorni, chiuso a Natale e a Capodanno. Ecco, questo però è un punto importante, perché io personalmente dico la verità, a me ha convinto questa spiegazione, non vado dietro a queste polemiche, non nel senso che non sia giusto parlarne, però se leggo che il sito di Pompei è aperto 362 giorni all'anno ed è chiuso in due giorni, Capodanno e Natale, nei quali sono chiusi i principali musei al mondo, perché comunque no, il fiato ma questa cosa, tutta Italia. Quindi perché la polemica solo su Pompei? Perché fa notizia Pompei. Però qualcuno Osanna ha detto che invece non è come dice lei, che l'anno scorso il sito era aperto, ecco perché si è creato un disorientamento nei turisti. Cioè, i turisti lo sapevano, perché si sono trovati lì davanti? Ma no, turisti? Ma allora, non erano informati? La cosa è questa: l'anno scorso era un'apertura straordinaria, cioè ci sono degli anni che accordi del Ministero con i sindacati permettono l'apertura di alcuni siti in giorni straordinari, appunto il 25 aprile e il 1 maggio. Quest'anno l'accordo che era stato siglato a Roma per tutta Italia prevedeva l'apertura del 25 aprile e del 1 maggio, ma non quella di Natale e di Capodanno. Ora, l'apertura straordinaria si comunica, non l'apertura ordinaria, non la chiusura ordinaria, capisci un po' qual è il problema? Sì. Cioè, però mi aiuti a capire, questo è chiaro, a differenza che c'è stata un'apertura straordinaria in una, diciamo, ordinarietà nella quale in quei giorni si è chiusi Natale e Capodanno, però forse allora è questo che disorienta i turisti, cioè il fatto che l'Italia è un paese nel quale arriva un ministro, allora aperture straordinarie, ne arriva un altro, no, torniamo all'ordinario, cioè la mancanza di continuità, perché di fatto c'erano lì delle persone che o non avevano letto bene gli orari o le guide non erano aggiornate, magari hanno pubblicato una guida l'anno scorso in cui c'era prevista apertura, hanno letto apertura e sono tornati, perché comunque altrimenti non doveva esserci coda là davanti, o no? Allora, io credo che il problema sia venuto dai tour operator che avevano programmato i viaggi in gruppi, anche stranieri, contando sull'apertura straordinaria, perché negli ultimi anni si era verificata. Però io dal mio punto di vista direi, prima, se fossi un tour operator, mi informerei se la straordinarietà è anche del 2014, cioè, sì. No, il fatto che negli altri anni si sia deciso poi di aprire a Natale non vuol dire che necessariamente si apre tutti gli anni. Ripeto, la carta di servizi lo recita, dice si apre e chiusa a Natale e Capodanno, tranne possibili accordi che verranno poi comunicati. Quindi secondo lei, insomma, lei rispedisce un pochino la palla nel campo degli operatori turistici, quali invece in questi giorni interpellati dicono: beh, ma non siamo stati coinvolti abbastanza, vorremmo sedere anche noi, non so a quale tavolo esattamente, insomma, di fatto loro non erano informati, è un problema loro o dovevate essere voi a coinvolgerli maggiormente? Guardi, come sempre io credo che la verità sta nel mezzo. nel senso, forse la nostra colpa, cioè, quindi la dico come ufficio periferico, come Pompei, è stata quella di non enfatizzare la diversità, cioè di ritorno alla normalità. Cioè, quest'anno, come la norma, resta chiuso perché se abbiamo aperto il 25 aprile, il 1 maggio, eccetera, eccetera. Quindi forse nella nostra homepage deve essere ben evidenziato. Faccio a questo punto anch'io il mia colpa, cercheremo col sito web di essere sempre aggiornatissimi, di dare il massimo della comunicazione. Il problema è che noi veramente col sito web non ci siamo molto, essendoci la notizia dell'ordinarietà, non abbiamo... cioè, però il sito web di Pompei era aggiornato correttamente e riportava il fatto che il sito era chiuso. La carta di servizi che è dentro, sì, nel sito web c'è la carta di servizi. No, però adesso quali sono le... è una cosa ben visibile, che lei cita la carta dei servizi, non vorrei che fosse una cosa che va, diciamo, no, no, cliccata secondariamente. Bisognerà metterla nella home page. Noi, ripeto, purtroppo siamo anche in una fase di ristrutturazione anche del sito, perché abbiamo nel grande progetto, sì, Pompei, fra tutti i progetti che adesso sono a bando e scadranno appunto i bandi qui nei primi giorni di gennaio, c'è anche il piano della comunicazione, certo, dove c'è il restyling proprio di tutto il sito web, perché uno degli obiettivi del grande progetto Pompei era proprio anche quello di legarsi con gli alberghi, le infrastrutture, gli aeroporti, quindi creare proprio una regia anche del turismo. Ma sta funzionando, però perché questo, a vedere no, come è andata Le spiego, questo è previsto il progetto, il piano anche per l'area esterna, sì, Pompei, riguarderà il 2016. Nel 2015 ci si sta concentrando sui progetti all'interno dell'area, quindi quello che si sta il facendo progetto più sono vasto grandi... quello arriverà l'anno prossimo. Senta, però il suo allarme di quasi un anno fa, quando arrivò, insomma, ne ha nominato a Pompei, disse: attenzione, dobbiamo fare una corsa contro il tempo perché non riusciremo a spendere i finanziamenti europei, cioè abbiamo i soldi europei, beati noi che ce li abbiamo, ma poi non riusciamo a spenderli. Questo allarme è rientrato, i lavori stanno andando avanti? Dunque, guardi, posso essere un po' più ottimista adesso, sì? Perché grazie al fatto che la struttura del grande progetto Pompei, diretta dal generale Mistri, e la struttura della sovrintendenza hanno collaborato molto bene quest'anno, si è riuscito, devo dire, in questi mesi, che sono appunto da marzo grosso modo ad adesso, a recuperare buona parte del tempo perduto. In che senso? Innanzitutto abbiamo rispettato l'action plan firmato dal commissario Hahn e dal ministro Franceschini e il sottosegretario Del Rio a luglio, ma siamo in anticipo rispetto a quel piano, cioè ci si chiedeva di spendere una cifra a dicembre, l'avevamo già raggiunta ad ottobre, e a dicembre ci chiedevano l'action plan di bandire progetti per circa 40 milioni, abbiamo bandito 96 milioni, quindi questa, diciamo, è una buona notizia. Quant'erano i milioni complessivi? 105 e noi ne abbiamo banditi 96, che sono progetti che secondo la tempistica che sono state assegnate, sì, indicate nei bandi, vanno chiusi entro il 2015. Cioè, se tutto va bene, vuol dire che le ditte lavorano come se non ci sono problemi di contenziosi che possono creare dei rallentamenti. Cioè, contenziosi, per esempio, da chi è stato escluso dai lavori, magari una ditta concorrente, sì, fa ricorso, sì, al TAR. Questo purtroppo non c'è una corsia preferenziale. Cioè, guardi, fortunatamente. Se c'è un contenzioso, i soldi non vanno persi, nel senso, noi poi non andiamo a definanziamento. Che ammesso poi che le corsie preferenziali, diciamo, siano la risposta, non so, più giusta, più corretta in questi casi, però la questione dei ricorsi sappiamo che a volte fa perdere un casino di tempo, un sacco di tempo, troppo, assolutamente no. Tra l'altro, quindi la notizia buona che lei ci dà è che sono stati banditi quasi tutti, diciamo, i cantieri che dovevano essere fatti. Questo vuol dire che quando saranno realizzati questi lavori il rischio di frane e di smottamenti e di a Pompei e di crolli sarà scongiurato, diciamo, per quanto è possibile fare? Sarà molto mitigato, nel senso che noi stiamo lavorando su due fronti. Uno è la mitigazione del dissesto idrogeologico, che è quello che poi creava gli smottamenti di terreno e quindi anche i crolli del passato, e contemporaneamente con la messa in sicurezza di tutta l'area scavata. Quindi vuol dire un programma di manutenzione straordinaria che farà sì che i crolletti che ci sono stati all'inizio di quest'anno, e dico crolletti perché hanno piccole cose ovviamente rispetto al tragico episodio del 2010, la scuola Armaturarum, anche quelli dovrebbero essere scongiurati. Ovviamente stiamo parlando di una città di 44 ettari di rovine, e questo io lo sottolineo, dove piccoli crolli non possono essere scongiurati al 100%, perché sono rovine che sono da due secoli al cielo aperto, sono muri spesso in condizioni precarie, lo erano già prima dell'eruzione, perché c'era stato un enorme terremoto a Pompei nel 63 d.C. Quindi la situazione è quella di una città in rovina che era già molto deteriorata al momento in cui c'è stata l'eruzione, per cui si fa il massimo, si deve fare il massimo per mantenerla in piedi, ma è una situazione veramente difficile quella di una città di rovina. No, è chiaro che non è che nessuno può garantire, diciamo, a priori che gli interventi fatti scongiureranno qualunque crollo, si stanno facendo i lavori necessari affinché si possa ragionevolmente evitare che ci siano degli altri crolli. Per quanto riguarda invece la riapertura delle domus, lei ne ha riaperte parecchie. Sì, abbiamo riaperto tutto quello che è restaurato, adesso è aperto, nel senso, rispetto alla visita normale di 6 mesi fa, dal 4 agosto invece abbiamo aperto 12 nuove case. E quindi adesso in termini percentuali, se è possibile farlo, sul 100% degli scavi di Pompei quanti sono visitabili al momento? Guardi, non è importante se è il 50% o se è il 30%, perché molte aree non hanno edifici di pregio da visitare. L'importante sono gli edifici con, a parte le grandi belle aree pubbliche, quelle appunto il foro che è sempre aperto, le terme, i teatri eccetera che sono sempre aperti, quanti edifici con apparati decorativi, con pitture, mosaici riusciamo ad aprire, perché lì c'è bisogno a parte che siano appunto restaurati come si deve, ma anche di personale di vigilanza, perché come lei sa, se ci sono 10.000 persone in un giorno, puoi immaginare quanti rischi una domus con affreschi può correre, perché i turisti possono essere, ci sono persone responsabilissime, ci sono persone preparate, ci sono persone. E quindi al momento col personale che ha, che percentuale della parte più importante di Pompei riesce a garantire? Adesso la situazione è positiva, perché abbiamo preso 30 nuove persone, 30 nuovi giovani di addetti alla vigilanza. Benissimo. Che stanno facendo un ottimo lavoro, e con loro apriamo queste 12 nuove case. Va bene, grazie, in bocca al lupo e auguri. Credi. Al sovrintendente di Pompei Massimo Zan, buona serata. 800 24 00 24, Franco da Bari, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Salve, volevo riagganciarmi al problema delle malattie. Sì. Anche nel mio settore, io sono una guardia giurata, anche nel mio settore praticamente è successa la stessa cosa. Io sono uno dei pochi che ha lavorato. Perché la notte del 31? Sì, notte di 31 e anche a Natale ho lavorato. Lei ha lavorato a Natale il 31, perché in genere si alterna, sì, dove ci sono turni, tu lavori a Natale, lavoro il 31, lei si è fatti tutte e due. E i suoi colleghi? Per colpa di qualche collega furbetto sono stato costretto ad andare a lavoro e lasciare mia moglie a casa. Mm. Però io dico anche questo, vado un po' a favore dei medici. Sì. Quale medico si prenderebbe la responsabilità? Magari uno va e dice non mi sento bene. Il medico gli dice no, secondo me lei sta bene, però poi se gli succede qualcosa al paziente, sicuramente il medico verrebbe processato o indagato. Chi si prenderebbe questa responsabilità? C'è anche da valutare. Questo è vero, è stato scritto anche all'SMS 349-238-6666, molti forse credo medici hanno scritto questa cosa qua. Non lo so, magari che gli facciano una visita. Perché basarsi proprio sulla fiducia, questo è un problema, perché quello tra paziente e medico è un rapporto di fiducia, e quindi se io ti dico che sto male perché sono disonesto o perché in quel momento mi voglio comportare così scorrettamente, il medico in effetti cosa deve fare? Non lo so, cosa può fare? Medici all'ascolto, chiamateci e diteci una parola su questo, perché non è possibile che si risolva tutto in questo modo qua. Luigi da Firenze. Allora, buon anno a lei e auguro a tutti gli ascoltatori salute e lavoro. Io ho 38 anni, lavoro nel privato e a quello che dicono la gente in radio, io sono invece, la penso in modo diverso. Hanno fatto bene, nel senso hanno sbagliato, perché si pagano tutti i cittadini romani, però hanno fatto bene, perché adesso mi devono spiegare tutti, sì. Adesso fanno praticamente un'indagine cognitiva eccetera, qual è la sanzione che verrà presa? 50.000 euro? E secondo voi 50.000 euro i vigili non sapevano già a quello che andavano incontro? Tra l'altro 50.000 euro, se ho capito bene, la paga l'ufficio, cioè la paghiamo noi contribuenti. poi con i ricorsi, che con sarebbe il massimo, no? Il danno è la beffa, sì. Però alla fine il problema è la politica. Ultimamente c'è stato il discorso di noi nel privato veniamo licenziati in tronco, e ne parla uno che fa manutenzione e lavora, praticamente ha lavorato il 25 fino alle 6 di sera senza dire una parola. Però non ho capito quando... perché lei provocatoriamente credo dia ragione a questi vigili urbani. Perché il problema sta nella politica, se non si fa una legge. Ma non può stare sempre nella politica, scusi il problema. Mi scusi, ma le leggi chi le fa? Le leggi chi le fa? Le fa la politica. Quando c'è una sui pensionati, se praticamente vogliono praticamente allungare l'età pensionabile, si fanno legge, si fa retroattiva, eccetera. Allora, d'ora in avanti, il signor Renzino è inutile che vada a dire noi facciamo sulla pubblica amministrazione, da marzo c'è in Parlamento la legge che cambiamo questo. Deve andare a fare un decreto attuativo dove dice i fannulloni e chi fa questo vengono licenziati in tronco. Perché quando si tocca la sicurezza delle persone, perché il 31... Sì, Luigi, ho capito quello che lei dice. Questo è quello che promette di fare Renzi tra poco. Il provvedimento della Madia credo che arriverà a febbraio, a marzo, non so esattamente, in Parlamento, vedremo. Ma non è la prima volta che si sente fare questo annuncio. Puniremo i fannulloni nella pubblica amministrazione, abbiamo sentito dire mille volte. E poi puntualmente non si fa, però non può essere sempre tutte le volte colpa della politica, è anche colpa di questa gente che se ha fatto un atto di disonestà ha commesso come lo chiama? un reato, certificato falso, dichiarazioni false, e bisogna anche provare ad accertarle queste cose qua dal punto di vista proprio del reato. Occhiale, porta i guanti, su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono ai livelli che passano con rosse 120 su un Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, l'impero è minacciato da un verbale, supereroi contro la municipale. Siamo partiti da qua stasera, supereroi contro la municipale, ma per una volta i supereroi sono stati loro, i vigili urbani a casa con l'83% di certificati di malattia. 800 24 00 24, abbiamo sentito in apertura stasera le spiegazioni, faremo l'inchiesta interna, indagini e approfondimento da parte del vice sindaco della città di Roma, Luigi Nieri. Adesso invece sentiamo, partiamo subito col dirigente sindacale Lulli, dei vigili urbani di Roma, che a proposito intanto delle cifre di assenteisti. Può sembrare alta, diciamo nei confronti del cittadino può creare un sospetto, ma per noi non è sospetto, però per carità, se ci sarà un'inchiesta della magistratura, diciamo gli atti sono a disposizione dell'amministrazione, va a vedere tutto. Noi su questo non mettiamo assolutamente in dubbio che l'amministrazione non deve fare accertamenti, non deve fare quant'altro. Ci sono i medici di famiglia che hanno certificato, quindi per e noi poi anche, le altre, anche è sì. Questo. E poi vogliamo risentire un pezzettino del discorso di Beppe Grillo, diamogli l'onore, perché l'anno scorso il discorso alternativo al capo dello Stato sul blog di Grillo aveva fatto 1 milione di visualizzazioni, quest'anno siamo nemmeno a quota 20.000, e quindi diciamo andiamo noi in soccorso di Grillo, perché non è possibile che quest'anno non se lo sia filato nessuno. Sentiamo. Due partiti che si sono uniti per disfare la Costituzione, con un partito che, dove il fondatore dell'Utre in galera ha preso 9 anni per associazione esterna mafiosa, e il suo presidente è stato mandato via dal Senato per leggera evasione fiscale, condonata con 4 giorni in un ospizio. È fantastico, questo è un paese meraviglioso. Ce l'abbiamo un pezzettino anche di Napolitano, sì, sentiamolo, dai, perché era l'antinapolitano, sentiamo anche Giorgio. Non lasciamo occupare lo spazio dell'attenzione pubblica solo a italiani indegni, rendiamo omaggio a italiani esemplari. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Italiani esemplari, avete sentito Napolitano che ogni anno nel suo discorso, insomma il capo dello Stato, ricorda anche nome e cognome alcuni italiani o italiane. Questa volta è toccato a lei, Serena Petricciuolo, ufficiale medico della Marina italiana sulla nave Etna, impiegata nel soccorso dei migranti nel canale di Sicilia, che la notte di Natale ha salvato centinaia di persone e ha anche fatto nascere un bimbo proprio sulla nave. Noi l'abbiamo qua con noi questa sera, Serena Petricciuolo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto va bene, complimenti per anche partiamo da qua, dalla citazione di Napolitano, che lei non sapeva nulla che sarebbe stata citata dal capo dello Stato. No, assolutamente, non sapevo nulla, ero nell'infermeria della mia nave con la mia componente, che al momento è composta da sottufficiali infermieri della Marina Militare Italiana, sì, dal Ministero della Salute, dalla Fondazione Rava, dall'Associazione dell'Ordine di Malta e dalle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e dai militari della Croce Rossa per quanto riguarda il rischio biologico. Ecco, cioè lei era lì sulla nave a fare il suo lavoro, avete guardato il discorso di Napolitano, a un certo punto lui si è rivolto a lei. Eh sì, infatti ho sentito nominare il mio nome e sono stata più che onorata del fatto che il presidente abbia pensato sì a me. Beh certo, è stata più forte quell'emozione in quel momento, un'emozione anche diciamo di gratificazione personale, o quello che era successo qualche giorno prima al termine di questa giornata di salvataggi da parte della nave della Marina Etna di centinaia di immigrati, quante persone avete salvato quel giorno? Almeno 900 persone. 900 persone, uno sbarco grandissimo, al termine del quale lei stessa, con le sue mani, possiamo dire, credo almeno, ce lo racconti, ha fatto nascere un bimbo. Eh sì, praticamente eravamo impegnati da 3 giorni in questi trasbordi ininterrotti e la giornata ci aveva visto impegnati nel trasbordo, nello screening sanitario di diversi migranti a partire da altre unità, sia della Marina sia unità mercantili, e nel pomeriggio avevamo anche effettuato il trasferimento di 2 persone a rischio biologico presso altre strutture ospedaliere di secondo livello e al seguito di un ulteriore screening di altre 300 persone, alle 10 questa donna nigeriana ha cominciato a entrare in travaglio, per cui nell'emozione totale lei non ha perso la calma assolutamente. No, né io né tutto il team sanitario che era lì presente a darmi sostegno insieme alla nave, emozionata del fatto che proprio la sera di Natale potesse venire alla luce. A me vengono, mi stanno venendo i brividi, perché mi immagino la scena, voglio spiegare meglio. Lei quanti anni ha? 30, se ho letto 30 bene. 30 anni, sì. Lei è un medico, ma quanti parti aveva fatto prima? Durante il periodo di studio nell'ospedale avevo assistito a dei parti, però le posso assicurare che l'emozione di veder nascere un bambino a bordo di una nave... No, ma poi non solo a bordo di una nave, ma lei aveva assistito a dei parti, giovane studentessa di medicina, però poi trovarsi lì per la prima volta a fare un parto in quella situazione caotica non deve essere stata una cosa facilissima. È stata ci una racconti cosa bellissima, perché è stata condivisa da tutti quanti, perché non solo noi del team sanitario ci siamo prodigati per gestire qualsiasi tipo di situazione all'interno dell'infermeria da combattimento che è presente qui su nave Etna, laddove diciamo in un'infermeria dove accogliamo migliaia di migranti ormai da diversi mesi, abbiamo riservato un posticino per questa donna che era in travaglio con suo piccolo che stava nascendo. C'è stato chi ha fatto una culletta con delle coperte, dei plaid, la gente si è messa subito a disposizione per prestare anche calore al bambino non appena fosse venuto alla luce, e tutto l'equipaggio chiedeva se ci fosse necessità, il comandante chiedeva se fosse qualcosa, necessità di avere un supporto sanitario ulteriore, di un'evacuazione, c'era un'apprensione totale, un'emozione totale, infatti c'è stato un festeggiamento da parte di tutta la nave nel momento in cui il bambino è venuto alla luce. Era presente anche il papà o no? Il papà non era presente, non c'era. Infatti poi la mamma, per dare il nome, ha voluto che fosse presente la sorella il giorno dopo e anche un'amica. E come l'hanno chiamato? Bambino o bambina? L'hanno chiamato bambino, l'hanno chiamato Testimony e Salvatore per dare un nome italiano. Infatti il giorno seguente, poi alla presenza del sacerdote di bordo, l'abbiamo anche battezzato qui in nave, quindi l'emozione è stata duplice, sia il giorno in cui è nato e sia il giorno successivo, sì, quando l'abbiamo battezzato. L'avete ufficializzato, insomma, esatto, la sua nascita. Sì. Dicevo prima, lei 30 anni, una laurea in medicina, come nasce la passione per la Marina e per imbarcarsi in un'avventura come questa? Io sono di Taranto, quindi fin da piccolina osservavo la Marina dall'esterno e ne ero innamorata, e all'età di 18 anni ho perseguito questo obiettivo unendo il grande sogno di fare il medico al sogno e alla passione per la Marina, e quindi al desiderio di diventare un ufficiale medico della Marina Militare. Quindi oltre agli studi di medicina ha fatto l'accademia e tutto il percorso? Sì, io sono entrata in accademia nel 2003, ho fatto tutto il percorso degli allievi ufficiali della Marina, sì. E adesso, insomma, a 30 anni, una citazione al capo dello Stato è anche una bella gratificazione. Le voglio fare un'altra domanda, che è questa, Serena. Voi siete naturalmente in prima linea, no? Fate un lavoro, dal mio punto di vista, ma non credo solo il mio, eccellente, sia dal punto di vista professionale ma anche umano. Però nelle, diciamo, nelle retrovie, no? Nelle nostre città italiane, quando si parla di immigrazione, nelle piazze, diciamo, politiche, a volte anche nei talk show sui giornali, si fa strada un argomento. L'argomento è questo: se noi siamo così bravi ad aiutare gli immigrati che vengono da noi, rischiamo di incentivare il fatto che loro vengano qua, quando qua da noi non ce n'è di lavoro, di possibilità economiche, di integrazione, eccetera, eccetera. Lei questa vicenda come la vive? Che ne pensa, stando lì in prima linea? Guardi, le posso assicurare che stando in prima linea e osservando gli occhi, lo sguardo di queste persone che fin dal primo gommone che arriva lì davanti a loro a soccorrere, a salvargli la vita, e vedendo che chiedono soccorso, tutto il resto diventa nulla. Per noi vale di più la mano che gli porgiamo quando salgono a bordo, l'aiuto che possiamo dare, il sorriso di una persona che riceve un pasto caldo, e tutto il resto per noi conta di più, conta niente, conta quello che possiamo fare e l'orgoglio di quello che facciamo in mezzo al mare con tutti gli equipaggi che sono impegnati in questa attività costante, di giorno, di notte, con un sacrificio immane in qualsiasi periodo dell'anno, estate, inverno. Nel suo futuro cosa vede? Ancora marina, ancora lavori su delle navi? Sì. Eh beh, senza dubbio, questa è la mia passione, quindi non posso che pensare a questo. Auguri per questo, in bocca al lupo, e anche sì, auguri per un meraviglioso 2015. Grazie, Serena Petrucciuolo, per essere stata con noi. E, insomma, avete sentito come ha risposto a questa domanda. Il resto non è un problema suo, tecnicamente. Lei svolge un lavoro, un'attività su una nave della Marina Militare, lo fa con professionalità e passione. Il tema poi dell'immigrazione più in generale, come gestirlo, è un'altra questione. 800 24 00 24, cari ascoltatori, c'è qualcuno che sta in attesa da più tempo o abbiamo una lista? Andiamo con Andrea da Sassari. Buonasera. Buonasera, sono Andrea da Sassari. Prego. Tecnico dell'Università di Sassari. Dunque, volevo dire, volevo argomentare sui vigili, sì, urbani di Roma. Chi ha sbagliato va perseguito e sanzionato, ovviamente, però i lacciuli che vuole impostare adesso Renzi non approderanno a nulla. Sì, è la mossa di protocollo, è giusto che lui la faccia, però l'ottica deve essere quella di elevare il comune senso del pudore, l'etica negli ambienti di lavoro. Il vigile urbano, come tante altre categorie, che fa il furbetto del quartierino, deve essere sanzionato da se stesso quando viene osservato da un altro che sa che lui sta facendo lo scorretto, come in tutti i settori. Per cui ci deve essere una ripresa della coscienza. È un sogno utopistico, però solo così possiamo. No, ma lei ha ragione, Andrea, cioè il suo argomento, io sono d'accordo, diciamo, ha lo svantaggio di non essere spendibile praticamente. Uno non può fare un annuncio sul risveglio della coscienza. Un governo, un presidente del Consiglio Valenzi fa l'annuncio sulla ennesima riforma della pubblica amministrazione. Ma in realtà quello che ci vuole è proprio quello che dice lei, cioè dal medico che fa il certificato, che deve un attimino guardarsi negli occhi e dire aspetta, facciamo un controllo, da chi poi deve mandare la visita fiscale, cioè tutta una serie di cose che riguardano persone in carne e ossa che devono svegliarsi, aprire gli occhi, fare qualcosa, altrimenti poi è sempre colpa della politica, ma non è così. Andrea, io sono d'accordo con lei, so se voleva andare avanti, vuole dire qualcos'altro? Sì, c'è un, come dire, per qua, c'è un metodo. Nel momento in cui io, per esempio, posso non fare il delatore, ma posso benissimo segnalare la cosa, perché anche per la corruzione che è successa a Roma, il magistrato cosa ha detto? L'impiegato pubblico non deve fare il delatore, ma deve segnalare il tentativo di corruzione, l'aria che tira che è pesante. Quindi io sono un condomino, vedo un vigile urbano che conosco e vedo che è malattia, che lo sento, un cognato, bisogna essere più coinvolti, quindi non dell'azione, però comune senso del pudore, no, tu sei scorretto, e molta gente quando si sentirà osservata farà di meno, perché la coscienza gli rimbomberà nella va testa. Bene, grazie, buona serata Andrea. Andiamo con Patrizio da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Chiamo perché ho sentito la precedente affermazione del vice sindaco di Roma sulla ipotesi di rimuovere i San Pietrini al centro e metterli per fare isole titolari in periferia. Sì. Ora, io sono a Via Giulia, piena di San Pietrini, per carità, ma qui c'è una cosa storica, questo sindaco è francamente un'idea devastante questa. Sa che significa cambiare 1000 anni, 2000 anni di storia? Non capisco dove ha preso questa idea balzana che fa il pandan col disastro fatto adesso a Però Piazza scusi Nuova, Patrizio, è chiaro che parliamo anche di forse pezzi di porfido, di San Pietrini che hanno anche una storia, può darsi in alcuni casi millenari, io non so quali vogliono rimuovere. Però che ci sia anche una funzionalità, cioè che le strade debbano avere un manto, diciamo, percorribile, biciclette, motorini, gente a piedi, anche automobili, questo è anche un problema, o no? Cioè non è che si può pensare solo alla storia di Roma. No, se però si può anche pensare legittimamente che ci possano essere degli interessi in appalti del genere. Cioè, No, ma lasci perdere gli appalti, gli interessi negli appalti. La domanda che l'ho fatta è un'altra, da romano, che ci sta in mezzo tutti i giorni. Capisco il valore della storia di Roma e dei San Pietrini dal punto di vista storico, ma dal punto di vista della pavimentazione stradale, non verrà un momento nel quale si dirà risolviamo questa questione, asfaltiamo, cioè evitiamo che la gente si rompa l'osso del collo? Guardi, gente che si rompe l'osso del collo dentro Roma io non ne ho vista mai per camminare. A Milano sì, glielo posso assicurare io ci vivo a Milano per il pavé, che è fatto diversamente dai San Pietrini, però i problemi sono gli stessi, cioè la disconnessione dei lastroni di pietra che ci sono. Qua di gente che si fa del male. No, lo so benissimo, però il problema è lo stesso che si può causare. No? Ma se lei mi consente, io avendo un'esperienza, io ho 65 anni, quindi penso di averne molti più di lei e sono romano nel midollo, le dico questo: io ho visto tante buche, ma le ho viste in periferia col cemento, che è cemento di pessima qualità, in città ne questo è possibilissimo. Ecco, questo... mentre capirei che si parlasse di rifare la pavimentazione con gli stessi San Pietrini. Se li vuole levigare, li vuole mettere meglio, va benissimo, però non può distruggere la fisionomia di una città. Noi abbiamo un grosso problema. Comunque, Patrizio, mi dica una cosa: cioè, per lei viene prima l'aspetto, diciamo, della salvaguardia storica che non un aspetto di funzionalità. Ma guardi che la funzionalità non è stata mai intaccata, sono 2000 anni che la gente ci cammina e sono anni che viene la gente a vedere questa storia. Sì. Mi perdoni, ma lei non può sconvolgere Via Giulia e ci mette il cemento. No, ma sono in molti a pensarla come lei. Patrizio, io rispetto il punto di vista. Non lo so, forse bisognerebbe vedere strada per strada, ci sono dei punti particolarmente coinvolti, diciamo, nell'architettura, nella storia di Roma, altri punti dove forse si potrebbe far prevalere invece un concetto di funzionalità. Sono in molti a pensarla come lei, non è che la sto stigmatizzando, Patrizio. Io forse la penso in maniera leggermente diversa. Comunque, grazie a lei e andiamo con Eleonora. Veniamo a Milano. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo tornare al tema del Presidente della Repubblica. Sì. e proporre il nome di Nicola Gratteri. Nicola Gratteri, magistrato naturalmente. Magistrato, esatto, sì. Che combatte da anni contro l'andrangheta. Sì. E niente, si parlava di risveglio delle coscienze, il Presidente della Repubblica parlava di uomini italiani indegni e naturalmente di italiani esemplari, e secondo me ci vorrebbe un italiano esemplare, forse non un politico, ma uno che sia di alto profilo e che sia un modello per tutti gli italiani, uno che sì. Lotta in prima linea contro... È un ragionamento che non fa una piega, si potrebbe obiettare che il Presidente della Repubblica, oltre a essere un modello, deve anche essere uno che poi fa quel lavoro lì, e quindi però credo che un magistrato con l'esperienza di Gratteri non sfigurerebbe certo in quel ruolo. Grazie Eleonora, e aggiungiamo allora all'elenco 800 24 00 24 degli ascoltatori sul Toto Quirinale nostro di Radio 24, anche Nicola Gratteri. Andiamo con chi andiamo? Con Gian Maria che chiama da Milano. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, io sono un medico di base, chiamavo visto che ha sollecitato l'intervento sì. di qualche medico di base. Sì. Io tra i miei pazienti ho circa quasi 1500 assistiti e ho due vigili urbani. Ah. Ma non sarà un problema solo dei vigili urbani comunque, credo. Questo... No, infatti, quello che dicevo, un medico di base comunque che ha due persone che fanno quella professione non ha nemmeno la percezione se si vuole fare un'azione di massa come hanno fatto i vigili urbani di Roma. No, ma questo sì, questo non è che il medico poteva, non è che lo stesso medico ha fatto 800 certificati, questo no. Quando si presenta un lavoratore che gli dice guarda io oggi non sono andato a lavorare, anche perché quelli che non hanno preso servizio il 31 saranno andati dal medico il 30 o il 31 mattino. Semmai il sospetto può venire esatto sulla data, voler essere malizioso. Personalmente io sono molto malizioso, come dice lei, puzza sempre un pochino il naso quando si presentano il 24 di dicembre o il 31 di dicembre per dirti che la mattina sono stati male. Bravo. O la notte hanno avuto la febbre. Bravo. Ma 99 volte su 100 il paziente si presenta con dei sintomi non obiettivabili, come si può dire. Ho capito, anche lei mi dice sintomi soggettivi, tipo ho mal di testa. No, quello va bene, ma quello è tipico soprattutto delle donne, periodo mestruale, cosa vuoi fare? Non puoi mica andare a constatare se effettivamente hanno il ciclo o meno, cioè passiamoci. Se si presenta uno che ti dice questa notte ho avuto 38 di febbre, adesso ce l'hai ancora, tu gli chiedi, fa no perché ho preso un paracetamolo, adesso mi è scesa, se anche io gli provo la febbre, la febbre non ce l'ha. Mi dica una cosa però, Gian Maria, se lei per qualche motivo dubitasse di questa malattia e non concedesse il certificato, poi se la persona va a lavorare e si sente male, lei cosa rischia? E a rischio di un'omissione, come dire, un'imperizia, un'imprudenza, in osservanza di norme e regolamenti. Cioè può essere questo un disincentivo vostra, della categoria dei medici, a essere un po' meno generosi con i certificati medici per la paura di ripercussioni, l'ha detto un ascoltatore. Quella è la prima paura, poi ce ne sono altre, del fatto che, perché quello il paziente te lo dice subito, te lo dicono loro direttamente, ma se poi vado a lavorare e sto male, me la prendo con lei, cioè te lo dicono apertamente. Spesse volte mi è capitato, io ho perso pazienti perché non ho concesso giorni di malattia, no? Quindi lei almeno per quello che ci sta raccontando, un suo piccolo, non dico una sua piccola battaglia contro i falsi certificati, però sta attento, insomma, come vogliamo dire Gian Maria? No, è chiaro, ripeto, i certificati uno li può fare sulla fiducia, io ripeto, non ho mai fatto un certificato sulla fiducia, il paziente l'ho sempre visto, quantomeno non li davanti a me in studio. C'è anche, una ricorrenza, può essere anche questo, cioè una volta che uno va, anche questo è difficile da verificare, come fai a verificare se uno ti fa, o anche semplicemente ad accusare uno perché ti fa 5 certificati medici in un anno, o non c'è un limite, o sì? È chiaro che noi la percezione di alcuni pazienti ce l'hai, perché soprattutto sono sempre quelli che ti ritornano, sono quelli che fanno determinate tipologie di lavoro, magari dipendente pubblico più del privato, insomma, ma alla fine come fai a dire di no? Diventa impossibile. Cioè, e per lei quale potrebbe essere una soluzione di questa cosa qua? Esiste o no? La soluzione probabilmente non esiste, nel senso che una proposta che era stata fatta ancora anche di organizzazioni sindacali nostre è stata quella di dire il primo giorno lo autocertifica il paziente, non c'è bisogno di certificato medico. Questo perché? Perché chiaramente a quel punto ti rendi conto di più se è stata fatta un'azione di massa, di dire stiamo a casa tutti insieme, diciamo tutti che abbiamo mal di testa. non cambia molto, perché poi l'azione viene fatta comunque, cioè i pazienti stanno a casa comunque, ma non sono, sono quelle motivazioni che non, sono, non essendo obiettivabili, nessuno può contestare un giudizio. Anche il medico fiscale, sentivo prima parlare dei medici fiscali, il medico fiscale il 99,9% delle volte conferma la prognosi del medico di base o del medico che ha dato la malattia, perché è difficile andare a dire a una persona non è vero che tu sei malato. Ma puoi solo verificare se quello magari nel frattempo è andato in giro a fare la spesa. In quel caso, se stavi male stavi a casa. Però certo, ha un limite anche questo. C'è un limite. L'alternativa, non lo so, se è quella di non pagare i primi 3 giorni di malattia, per esempio, in modo tale che uno sia disincentivato a fare queste micromalattie, a fare queste manovre, come dire, così di in termini politiche, insomma, queste questioni sindacali, diciamo così, ma la soluzione non la vedo. Cioè, non va bene, grazie Gianmaria, anche se non ci ha tirato molto sul morale, però ci ha aiutato ad entrarci un po' meglio in questa materia e a capirci qualcosa di più. Grazie. Gianni da Milano. Gianni? Sì, pronto? Prego. Tocca a lei. Sì, ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io volevo intervenire a proposito di Pompei invece. Sì. Perché sono un operatore turistico, mio malgrado invece mando i turisti italiani all'estero, però conosco bene la materia. Io sono abbastanza basito nel sentire il sovrintendente dire che l'apertura di un sito archeologico o comunque di un contesto culturale di cui l'Italia dovrebbe vivere durante i periodi di ferie è un qualcosa di straordinario. Assolutamente no. Assolutamente. Ma lui non no, ha perché... detto che una cosa, ha detto che l'anno scorso era stato aperto in via straordinaria il 31 dicembre Pompei, quando invece per abitudine, per tradizione, quel giorno lì Pompei è chiusa, come tutti i principali musei italiani e forse anche del mondo. Io che lavoro nel settore posso dire che questa è una grandissima aberrazione, perché in primis l'Italia potrebbe e dovrebbe vivere comunque un po' della nostra cultura. Quando no, ma è vero, però scusi, quando mai il cittadino può acculturarsi? Prendendo un giorno di ferie? No, andando a visitare nei giorni di festa. Nei giorni di festa. Ora, attenzione bene. Attenzione però bene, le dico un'altra cosa, nell'ultima volta che è stato aperto a Natale e a Capodanno Pompei aveva avuto poche centinaia di visitatori, quando normalmente ce ne sono migliaia, perché poi di fatto quel giorno lì è un giorno speciale, la gente festeggia ma non va nei musei, questo è quello che è stato riportato da alcuni giornali, poi ognuno si fa l'idea che crede. Gianni? Esatto, è un discorso di malinformazione, è un discorso di mala gestione della cosa. Allora, voglio il settore terziario come gli ospedali, il trasporto aereo, i treni, la pubblica sicurezza. Non esiste Natale, non esiste Capodanno, ok? Quindi non ci possono essere delle condizioni pseudo sindacali o pseudo fabbrica dove va allora bene, questo è il giorno di chiusura. No, abbiamo capito. Lei su questo dice, cioè, bisognerebbe che fossero aperti più di 365 giorni all'anno, però non credo. Il sovrintendente che lei ha criticato giustamente, non è che dico che deve per forza essere d'accordo con lui, ha detto che è stato chiuso per 2 giorni in tutto l'anno Pompei, Natale e Capodanno, lei dice doveva essere aperto anche quei 2 giorni, è possibile, perché no, che dobbiamo fare? Aspettare i titoli della 7 per esempio che stanno per arrivare, dico a Filippo Reggio in regia, tra poco li sentiamo, prima però nell'attesa anzi sentiamo, chi sentiamo? Roberto da Milano, ecco no, i titoli. In furia la polemica sull'85% dei vigili romani assenti dal servizio a Capodanno per malattia. Il ministro della pubblica amministrazione Madia dispone un'ispezione. Renzi promette cambieremo le regole. I vigili annunciano scioperi selvaggi, critici anche i sindacati. La CGIL twitta le azioni sbagliate danneggiano tutti. Dopo il discorso di Commiato di Napolitano entra nel vivo la partita per la successione al Quirinale, il presidente della BCE Mario Draghi si tira fuori dalla corsa. Non voglio essere un politico, dice a un giornale tedesco, iniziano le indiscrezioni sui nomi, Forza Italia chiede prima l'elezione del nuovo capo dello Stato e poi l'approvazione della legge elettorale, forse si incontreranno Berlusconi e Renzi. Borsa Borse e mercati aprono il 2015 nel segno dell'ottimismo, prima seduta dell'anno con quasi tutte le piazze europee in terreno positivo, Milano chiude a più 0,62%, i rendimenti di BOT e BTP toccano i minimi, lo spread è a 126 punti base sui Bund tedeschi e ora c'è attesa per la riunione del Board BCE che il 22 gennaio potrebbe varare le tanto sperate misure antideflazione. Il rogo sulla Norman Atlantic, prima ispezione della procura sul traghetto rientrato nel porto di Brindisi. Recuperata la scatola nera, ma per ragioni di sicurezza non è ancora possibile entrare nella stiva. I PM dicono forse ci sono altri corpi all'interno, non più di 15 i dispersi, altre 4 persone indagate per la tragedia. I blitz aerei statunitensi non evitano la nuova vendetta dell'ISIS, ucciso il pilota giordano sequestrato nei giorni scorsi nel nord della Siria. E dopo il videoappello delle due cooperanti italiane rapite, le nostre autorità chiedono il massimo riservo. Mentre si contano le cifre del business dei rapimenti tra le primarie fonti di finanziamento per i terroristi dello Stato islamico. Guarito e dimesso il medico di Emergency che si era ammalato di Ebola, Fabrizio Pulvirenti ha eliminato il virus grazie alle cure sperimentali nell'ospedale Spallanzani di Roma. Il volontario ripercorre le settimane da incubo. Oggi tornerò a casa mia in Sicilia, racconta, ma andrò nuovamente in Africa e donerò il mio sangue per curare i malati. Eccoci qua, allora avevamo in linea Roberto da Milano. Buonasera. Sì, sono io. Sì, tocca a lei, prego. Ah, buonasera, niente, il mio intervento era proprio, diciamo, verso i medici. Sì. L'ha fatto molto bene Gianluca. Gianmaria da Milano. Ovviamente era un medico, quindi con tutta cognizione di causa. Il discorso è semplice, io non colpevolizzerei assolutamente i medici, perché ovviamente avrebbero doppia sanzione. Primo, nel caso in cui uno, come diceva prima, si presentasse dicendo che non sta bene, chiaramente tu non puoi, a meno che non abbia la febbre, autenticare che lui non ha niente. Può avere un dolore di qualsiasi tipo, il nervo sciatico, può non muoversi, può avere e quindi glielo devi attestare. E quindi il certificato non è falso. Oltretutto bisognerebbe che per certificare la falsità dei certificati probabilmente sia lo stesso medico che fa più di un certificato, allora uno dice e tu dai i certificati a raffica senza stare a controllare. Quindi questa cosa secondo me è assurda. E l'intervento io non lo tiro oltre perché l'ha detto molto bene appunto Gianmaria, quindi il discorso è o chi va, come dicevamo prima, punito in qualche modo il primo giorno non ti viene retribuito. Io d'altronde faccio il tassista e non mi ammalo mai, chissà come mai, eppure lavoro anche con la febbre e quindi... Però mi scusi Roberto, ma non è possibile che sia tutto vanificabile, cioè il certificato è vanificabile, la visita medica è vanificabile, i controlli sono vanificabili, è possibile, però forse è possibile anche che, diciamo, come lo stesso Gianmaria ammetteva, un tentativo di, come dire, di essere d'accordo con la propria coscienza, di non voler chiudere gli occhi, di fare un po' più di resistenza, qualche cosa si potrà fare o no? Quello che dice lei ho capito perfettamente, ma qui sicuramente ritorniamo al discorso che intendo dire io. Non è il medico che va punito, chi va punito è chi ha chiesto un certificato in modo, diciamo, truffaldino. Il problema è come si fa ad accertare questo, perché se non ci aiuta il medico, non ci aiuta la guardia fiscale, la medico fiscale, non ci aiuta nessuno, diventa difficile, ha capito? È questo che dico, se no diventa diventa inutile gridare al ladro, se poi nessuno può arrestare il ladro, ha capito? Cioè, se per caso il medico che fa il controllo, perché quando una persona si dichiara ammalata dovrebbe stare a casa, di conseguenza se il controllo venisse effettivamente fatto convaliderebbe la situazione, se uno è ammalato o no, per quanto io le posso dire che se anche il controllo venisse fatto, e qua gliela butto perché è un dato di fatto, sì. Se tu hai la febbre e stai male, va bene, io ti controllo, dico hai la febbre, ma se tu stai a casa perché hai una forte emicrania, il discorso è che tu non puoi certificarlo, perché ci sono quelle situazioni, diciamo, patologiche, patologie tali, per cui nessuno può mettere in discussione. Sì, no, ma questo è giusto, è già stato detto, questo è sicuramente un limite al fatto di fare questo tipo di controlli, però io quello che dico è che non può essere un limite assoluto dietro il quale si può nascondere qualunque cosa. Grazie Roberto, abbiamo i titoli del TG1, sentiamoli, vai. Roma, 83% dei vigili urbani assente per malattia a Capodanno. Marino, verifiche su chi ha inventato scuse. Renzi, mai più episodi così, perciò cambieremo la pubblica amministrazione. Madia al TG1, sanzioni contro i responsabili. Traghetto, trovata la scatola nera sul relitto ormeggiato a Brindisi, la procura non più di 15 dispersi. È guarito il medico italiano affetto da Ebola dopo 37 giorni di cure a Roma, tornerò in Sierra Leone. Blitz fallito per fonti arabe, l'ISIS uccide il pilota giordano catturato, cooperanti, Al-Qaeda non conferma di tenerle prigioniere. Cominciano i saldi, da domani in molte regioni italiane caccia all'occasione, ma le previsioni sono negative. Arriva Exodus Day e Re, il nuovo film di Ridley Scott, un colossal americano da 140 milioni di dollari. Nel ruolo di Mosè l'attore Christian Bale, proiezione vietata in Marocco e in Egitto. Brebemi, l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, puoi andare anche a più di 100 all'ora, tranquillamente, tanto probabilmente non incontri nessuno, cioè, o incontri pochissime auto. È l'autostrada forse meno trafficata d'Italia. Se attendevano 80.000 auto al giorno, ne transitano poco meno di 20.000. Certo, può essere anche un vantaggio l'autostrada poco trafficata, dipende dai punti di vista. Se sei lì in macchina che ti fai un bel viaggio, sicuramente è un vantaggio. Se invece a pagare i minori introiti dei pedaggi previsti sono i contribuenti, cioè Pantalone, cioè paghiamo tutti noi, allora il punto di vista è un tantino differente. Salutiamo, l'abbiamo convocato, Dario Balotta, che è responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, noi insomma si può fare un programma di buone notizie, cerchiamo di, con questi si può fare, di andare a sempre un po' più in là nel, appunto, nell'ottimismo, però stavolta non si può fare interrogativo, cioè, ma si può fare sta cosa qua, cioè ci racconti lei il regalino di fine anno che è stato fatto a regalino di fine anno, insomma i 300 milioni di euro che sono sbucati in legge di stabilità, perché? Ma i 300 milioni sono arrivati perché i conti della Brebemi non riescono ad essere pagati, perché quel project financing è stato un progetto. Giusto, perché è una cosa che io ho omesso. Questa doveva essere la prima autostrada, l'ho dato per scontato forse, sì, privata e autofinanziata d'Italia, e invece no. E questo era il patto dei costruttori, dei promotori di questa autostrada, che avevano detto 6 o 7 anni fa allo Stato: noi facciamo questa opera e però non abbiamo bisogno assolutamente di nessun contributo pubblico. Ma la cosa che aggrava questa situazione è che per assegnare questa concessione è stata fatta una gara internazionale a cui hanno partecipato anche gli americani della Berkel, e questi americani qua sono arrivati secondi perché loro avevano posto delle altre condizioni. Il risultato è che adesso, in corso d'opera, diciamo così, si cambiano quelle regole della gara che dicevano che non ci sarebbe mai stato nessun contributo pubblico, mentre invece a 6 mesi dall'apertura sono arrivati non solo 300 milioni dai contribuenti italiani, sì, dal governo, dalla legge di stabilità, ma anche 60 milioni da Regione Lombardia, e questo fa un totale di 360 milioni. Tra l'altro questo, sì, prego. Di 2 miliardi e 400 milioni, insomma 360 milioni in più non sono pochi. Non è poco. E tra l'altro, venendo un po' ai conti della serva, su quella cifra che ha detto lei, la cifra complessiva, adesso si aggiungono questi 360 milioni pubblici nei prossimi, sì, anni, ma insomma il mercato vero è stato un po' alla larga da questa operazione, perché forse qualcuno aveva fatto i conti, voi avevate detto, ma magari potete essere tacciati di ambientalisti contrari all'infrastruttura, che quelle previsioni di traffico erano sballate. Sì, avevamo abbiamo detto che le previsioni erano sovrastimate, appunto per giustificare l'opera, perché Brebemi è stato anche, oltre che il vincitore di gara, il promotore di questa opera pubblica. Brebemi si è presentata in Regione Lombardia e ha detto: per noi serve un'autostrada parallela alla 4, direttissima tra Brescia e Milano. E noi avevamo detto che tra Brescia e Milano non serviva un'autostrada parallela alla 4, anche perché la 4 stava diventando a 4 corsie, come è diventata un anno fa nel tragitto tra Milano e Bergamo, e anche perché tra l'altro lo Stato stava costruendo l'alta velocità tra Milano e Brescia, e dunque ci trovavamo con una maggiore capacità autostradale e anche una maggiore capacità ferroviaria. Dunque la giustificazione di quell'opera proprio non la vedevamo. Oltretutto, in questi ultimi 10-15 anni, il traffico delle merci, il traffico pesante verso l'area industriale di Milano, con la delocalizzazione e la deindustrializzazione, veniva sempre più a mancare. Cioè, mi faccia capire, ci sono meno capannoni attivi, meno siti produttivi per via della crisi, per via della delocalizzazione, comunque non ce ne sono di più di quelli che ci potevano essere 10 anni fa, nel frattempo c'è un'autostrada in più. Esatto, c'è anche il telelavoro, c'è anche l'arrivo delle tecnologie, dell'informatica, dunque, e c'è anche un comportamento, diciamo, un pochino più europeo nell'uso dell'automobile anche da parte degli italiani, che nel frattempo, insomma, si stanno domandando se è proprio così indispensabile avere 2-3 automobili in casa propria o se forse si può vivere anche con una sola automobile. Dunque, dei comportamenti un pochino più virtuali da parte degli italiani, e un'autostrada buttata lì in questo modo, la quale oltretutto aveva sovradimensionato, dicevamo prima, le previsioni del traffico, ma sì, aveva anche sottodimensionato i costi, perché questa autostrada nasce dicendo che sarebbe costata 800 milioni. Alla fine, a proposito dei conti della serva, i milioni sono diventati 2.400, il triplo, esattamente il triplo, più i 300 milioni. Beh, i 300 milioni, diciamo così, che vanno a pagare i 2 miliardi e 4, i quali 2 miliardi e 4 Brebemi si era impegnato a pagarle con le banche pubbliche che hanno prestato questi soldi qui in 19 anni e 6 mesi. In 19 anni e 6 mesi con 17.000 veicoli al giorno, che oltretutto non fanno 62 chilometri della lunghezza dell'autostrada, ma al massimo ne fanno 20-25, perché è traffico tutto residenziale pendolare. A questo punto, con poco traffico e poche percorrenze, questa autostrada qui con i pedaggi non si pagherà mai, ma proprio mai. Non è che questo mi rallegri molto, però era giusto dirlo perché certo, essendo appunto che si era parlato di questo progetto come di un'autostrada totalmente autofinanziata, ecco, sappiate che non è andata proprio esattamente così. C'è l'altro capitolo, quello degli aumenti dei pedaggi autostradali, che intanto c'è un primissimo capitolo, sì, il 23 giugno l'autostrada apre con dei pedaggi doppi rispetto a quelli della media autostradale italiana. Sì, però lei adesso sta parlando ancora della Brebemi, io invece facevo un discorso più in generale, del 1 gennaio scattano gli aumenti dei pedaggi in tutte le autostrade, da parte di tutti i concessionari. Il ministro delle Infrastrutture Lupi ha un po' tirato la corda dicendo: beh, insomma, cerchiamo di stare nei limiti, ma sono aumenti in base all'inflazione programmata. Andando a controllare però sul sito del Ministero del Tesoro, l'inflazione programmata corretta di quest'anno non è l'1,4%, ma è lo 0,5-0,6%. Come la mettiamo anche qua? Cioè, con un'inflazione reale che è sotto l'1%, gli aumenti però sono di più dell'1%, 1,5%. Sì, diciamo che l'inflazione reale è attorno allo 0, forse 0,2, dunque da 0,2 a 1,5 siamo 7 volte l'inflazione, ma questi aumenti non pagano soltanto l'inflazione, pagano anche degli accordi che il Ministero prende con tutti i concessionari che riguardano un pochino lo sviluppo della loro attività, e comunque Il ministro Lupi ha calmierato, tra virgolette, insomma, anche se poi non si è trattato proprio di una calmierazione, ma ha anche detto: guardate signori che a giugno gli aumenti dovrò farli, perché lui, il ministero, si è impegnato ad coprire una, diciamo così, una traiettoria tariffaria che è nettamente superiore a questa qua, per cui i concessionari autostradali sanno che a giugno potranno ottenere un aumento che va dal 4 al 15%, che è quello che peraltro loro avevano chiesto, ma non proprio chiesto, perché è tutto previsto nelle convenzioni che ci sono tra lo Stato e i 23 concessionari italiani. Quindi, insomma, ci siamo legati le mani da soli con queste convenzioni. Esatto, quindi a questo punto. La rete più frammentata di tutta Europa, anche una tratta di 8-9 chilometri per esempio, o 10-12, quella del Monte Bianco, è una tratta, è una concessionaria a sé stante, con 23 concessionari che praticamente dettano legge al ministero. Queste sono le situazioni tariffarie che ci troviamo, in attesa che l'autorità dei trasporti batta un colpo. Io intanto mi fermo qua e lo ringrazio, Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia. Grazie, auguri anche a lei, grazie, per essere stato con noi. Grazie a voi, auguri a tutti i vostri ascoltatori. 800 24 00 24, se state transitando lungo la Brebemi o se la utilizzate spesso, volete raccontarci come la trovate, desertica? 800 24 00 24. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, vediamo se c'è qualche sms. 349-238-6666. Beh, ci sono cose irriferibili nei confronti dei vigili urbani, parole appunto non riferibili. Basta non pagare i giorni di malattia, scrive un ascoltatore. Ma che poco coraggio i medici che hanno parlato. Certo che nella grande maggioranza dei casi possono capire se un paziente è malato o no, basta visitarlo, ma hanno paura di perdere pazienti e quindi i soldi, scrive Sara, che è un medico tra l'altro, quindi Sara, però magari, ecco, questo aspetto qua potrebbe essere interessante, perché non ci chiama e l'approfondiamo questo aspetto, perché stando a quello che hanno detto alcuni ascoltatori, un medico e un altro ascoltatore, in pratica non è possibile per un medico verificare se si è di fronte a una richiesta di un finto certificato di una finta malattia oppure no. Andiamo, abbiamo qualcuno in linea da più tempo? Forse Gianluca da Roma. No, sì, Gianluca da Roma, buonasera. Ah, buonasera, auguri a tutti. Prego. Io chiamo in merito alla notizia che abbiamo, sì, sui vigili urbani a Roma. Sì. Allora, io volevo cercare di capire con lei, ma come nasce un dato di questo tipo? Cioè, come si espande secondo lei? Prende forma? Cioè, il 2 a mattina ci svegliamo tutti e sappiamo che i vigili, l'86% non è. Se uno vedeva i dati dello scorso anno, no? Sì. Probabilmente è successa la stessa cosa. E qui, diciamo, metto in mezzo anche un pochino l'informazione che potrebbe avere uno scopo educativo. Diciamo, se questa notizia uno l'avesse tirata fuori il giorno prima, diciamo il 30, il 31 dicembre, sì, sia il ministro, il primo, e dice: guardate ragazzi, lo scorso anno è successo questo, cioè, perché sembra un po' il gruppo di Facebook, no? L'83%. Cioè, lei dice, se la stampa avesse avuto buona memoria avrebbe potuto dirlo, e cosa avrebbe ottenuto? Secondo me avremmo ottenuto che tutti sarebbero andati, o perlomeno probabilmente solo qualcuno, o probabilmente chi veramente era malato non sarebbe andato a lavorare. Cioè, per quale meccanismo, che ignoro, scusi, non ho capito. Cioè, basta che la stampa scrive un articolo dicendo... Non alla stampa, non voglio giornale, dire solo, insomma, la stampa. E diciamo, se la notizia fosse stata tirata fuori prima che la cosa accadesse, no? Sì. Secondo me avremmo avuto un risultato. Vabbè, questo diverso, non lo so, è possibile. Servizio. Gianluca, è possibile. Anche l'informazione fa i suoi errori, può darsi che questo sia un errore. Non lo so poi se l'anno scorso c'è stato l'83% di assenteisti a Roma. A quel che mi pare di capire, no. Cioè, certo che c'è un'abitudine nei giorni di festa, abitudine negativa, assolutamente da condannare, la gente di mettersi in malattia. Perché poi da condannare, perché poi ci sono i colleghi d'ufficio che lo prendono in quel posto, perché non è che è solo una questione tra il dipendente e l'azienda o il dipendente e lo Stato, è anche una questione di correttezza umana nei confronti dei tuoi colleghi. Questo succede tutti gli anni, un pochino. Quest'anno c'è in ballo anche la roba della questione della turnazione per la legge anticorruzione di Cantone, eccetera, eccetera, che avrebbe, diciamo, portato le cifre a questo livello. Poi se denunciare la cosa prima avrebbe evitato il fatto, questo è possibile, non lo so, io personalmente non ne ho un'opinione. Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori. Andiamo con Antonio dalla provincia di Catania. Sì, buonasera, sono Antonio dalla provincia di Catania, Caltagina esattamente. Allora, io volevo dire, diciamo, una mia opinione secondo riguardo le malattie. Io, essendo una guardia giurata, sì, cioè, nel nostro settore, quindi come vigili, le forze dell'ordine in generale, che fa torne, se io ad esempio mi voglio mettere malattia il giorno 6, io non è che, cioè io il giorno 5 sera chiamo alla mia azienda, ci sarà uno che è di turno, dove dico: guarda, io ho mal di stomaco, mal di schiena, ho mal di testa, domani non mi presento al lavoro. Benissimo, io domani non mi presento al lavoro il giorno 6, giorno 7 vado dal medico e cosa vado a dire? Dottore, buongiorno, ieri mi sono sentito male e ancora oggi mi sento un po' male. Il medico giustamente mi fa il certificato 6 e 7. Quindi come, diciamo, l'azienda come fa a mandare la visita fiscale il giorno 6? Non so se ho reso l'idea. Come fa a mandare al giorno 6? La manda, se lei ha già telefonato dicendo che non va a lavorare perché è malato, in attesa del certificato medico, credo che uno possa mandarla la visita fiscale, perché lei comunque sulla sua parola, anche se il certificato non è ancora arrivato, dice che è malato, quindi credo, non lo so, non me ne intendo. Antonio, la sua è una domanda, come dire, retorica, ha già una risposta? Non è possibile farlo secondo lei? No, siccome si parlava gente che diceva certificati falsi o non falsi, sì, i certificati in effetti come si fa a stabilire se è falso? Se io domani non voglio andare a lavorare, io stasera, perché noi facciamo i turni. Sì, non l'ha detto chiaramente, lei chiama e sta a casa. Io chiamo alle 11 di sera, dico domani, ora l'azienda, che diciamo l'amministrazione è chiusa, non c'è il ragioniere, non c'è questo, non c'è quell'altro, il semplice operatore che prende l'appunto, che prende l'appunto dove dice tizio e Caio domani è malato. Cioè, malamente non può mandare la visita fiscale, perché poi l'Inps è chiusa, tutti gli organi competenti sono... Va bene, Antonio, grazie. Non lo so, il suo caso non merita neanche un commento, lei l'ha descritto chiaramente. È così, ci sarà qualche altra gabola, magari qualche altro ascoltatore ci aiuta, diciamo, a districarci. D'altra parte ormai sappiamo quasi tutto a fine serata su come funziona la vicenda delle finte malattie. Andiamo, dove andiamo? Paolo, forse in attesa da un po', dalla provincia di Milano. Buonasera. Oh, buonasera, è un rebus quello dei dottori. Sì. Volevo proprio un rebus. Volevo dire, come nominativo per il nuovo presidente della Repubblica, sì, a me piacerebbe molto il vicepresidente della Camera, Giachetti Roberto. Non lo conosco personalmente, ma quelle poche volte che lo sento qui alla Zanzara o per televisione lo vedo sempre una persona. Sa perché? Perché Giachetti ha avuto un po' di voti, un po' di endorsement da parte degli ascoltatori di Radio 24, li si può fare anche su Twitter, l'abbiamo visto, girava un po' il suo nome, l'avevamo ospitato qualche sera fa anche noi, la Zanzara lo fa spesso, perché Giachetti è uno che ti dà la sensazione di dire quello che pensa, di essere molto trasparente, di dire anche a volte le cose magari in maniera provocatoria, ma sempre diciamo con meno legato ai riti della politica, in tutti i sensi, ecco. Credo che sia questo il bello di Giachetti, che piace. Poi chissà, come presidente però non lo vedo in cima, diciamo, ai pensieri di Renzi, Giachetti. Comunque, dove andiamo? Luca da Milano, buonasera. Buonasera, auguri a tutti. Prego. Buonasera, io volevo intervenire in merito alla Prebemi, in generale alle nuove autostrade statali che sono state modernate a Milano. Io non sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il signore di Legambiente, perché secondo me il problema della Prebemi, del poco utilizzo della Prebemi, è il fatto che è molto cara. Quindi, per una questione di domanda offerta, non viene utilizzata perché costa il doppio delle altre. Ma non è vero che non serve, serve come? Perché il traffico all'ingresso di Milano è congestionato. Quindi queste autostrade, come anche la Rivoltana, la Nuova Cassanese, sono delle cose, delle opere che finalmente dopo 40 anni... Scusi Luca, però serve, sulla carta serve, serve in teoria, perché se poi non la utilizza nessuno... Ha mai fatto la A4 al mattino? Però perché, scusi, la A4 al mattino Luca, è intasata. Il sì. problema è che le autostrade intorno a Milano servono perché uno, ma allora perché, se, perché, scusi Luca, perché ragioniamo pacatamente, come diceva qualcuno, se l'autostrada A4, come dice lei, è intasatissima, io qualche volta l'ho fatta, in effetti è intasata, meno magari di prima perché c'è la quarta corsia, teniamo conto anche di questo, perché la gente non va sulla Brebemi? Perché è cara, perché costa il doppio, è già da adesso, è già da mesi che è a pagamento la Brebemi, forse non lo sapete, ma costa il doppio dell'altra. No, no, l'abbiamo appena detto, l'ha detto Balotta, l'ha detto, sì, no, sì. No, l'ha detto Balotta, ma ha detto che inizia ad essere in pagamento, in realtà è già in pagamento da mesi, almeno da 3 mesi, quindi sì. che non raccontiamo stupidaggini. Però, la scusi, Brebemi, Luca, è utilissima, scusi. Sì. È utilissima, ma è cara, il problema sì. è quello. Allora, è però c'è qualcosa che non va nell'ideazione di questa infrastruttura, ecco, perché, se la Brebemi, scusi, mi faccia ragionare un attimo, sì. Seguo il suo ragionamento, se la Brebemi potenzialmente è utile, su questo non lo mette in discussione nessuno, però, o meglio, qualcuno l'ha messo in discussione e adesso ha pure avuto ragione, mettiamo che fossero sbagliati i calcoli degli ambientalisti. La Brebemi è necessaria, il prezzo messo dal concessionario è troppo alto, allora il concessionario si fa del male da solo, perché secondo potrebbe incassare molto soldi, di più. Secondo me si vuol far dare dei soldi dall'amministrazione come sta ottenendo. Oh, questo però, è possibile, però, e allora, bravi coglioni noi che ci caschiamo, l'amministrazione, lo Stato, la Regione. No, io che sono un utente e che, e che devo spostarmi, ben vengano le infrastrutture nuove e basta con questi... farsi, come dire, buonismi degli ambientalisti. Ma non c'entra nulla, Luca, non c'entra nulla, non c'entra, Luca, stia calmo, non c'entra nulla il buonismo degli ambientalisti. Balotta non ha detto quello, ha raccontato freddamente la realtà. Ci vanno meno di 20.000 macchine al giorno, ne prevedevano 80.000, noi avevamo detto che non ci sarebbero arrivati a quelle cifre. A queste cifre non incassano, si sono fatti dare i soldi dallo Stato, doveva essere l'autostrada privata. Questo ha detto, non ha detto cose di buonismo come dice lei. Cioè, la realtà allora, oggi è questa. Secondo me bisogna scindere, me bisogna scindere il tema delle infrastrutture dal tema degli affari che girano attorno a queste infrastrutture, perché Milano... ma non si può scindere, perché se si fa un'infrastruttura inutile o si gestisce male, come adesso il caso, o decida lei quale dei due è il caso, io non lo so se è inutile o se viene gestita male, però di fatto la situazione è questa, un'autostrada poco utilizzata che sta costando ai contribuenti un sacco di soldi, e come la mettiamo? Questo potrebbe essere un problema, nel momento in cui sarà ripagata dai contribuenti e le tariffe torneranno ad essere uguali a quelle delle autostrade, ma guardi, i contribuenti non la pagheranno, gli automobilisti, vuol dire, nel momento in cui la pagheranno, non la pagheranno mai, perché la stanno pagando già i contribuenti, ha capito? Secondo me in una legge di domanda offerta a tempo qualche mese si accorgeranno che dovranno abbassare necessariamente le tariffe, altrimenti la gente... Luca, teniamoci a mente il suo nome, il suo numero di telefono, se vuole, e ci risentiamo, per me, molto volentieri, tra qualche mese. Vediamo se aveva ragione lei o se è previsto giusto, e speriamo che sia così. Grazie, buona serata. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua cari ascoltatori, abbiamo Alessio che ci chiama da Brescia, buonasera. Buonasera, in realtà vi chiamo dalla Brebemi. Oh, fantastico. 6-7 minuti in questo tramvendimia sono passate più o meno 5 vetture, quindi direi che la media è in linea con i dati che ci dava prima. Ma lei sta contando le vetture che le vengono incontro sull'alta carreggiata o quelle, no, diciamo... No, nel mio senso. Di nel marzo. Suo senso. Se esageriamo possiamo raddoppiare, diciamo, più o meno intorno a 15 vetture. Che sono vetture. Poche o sono tante in 10 minuti, secondo lei? Ma decisamente poche in questo senso di marcia. Ma poi volevo controbattere a quanto diceva l'ascoltatore di prima, se non ero Luca da Milano, sì? Perché il vero problema della Brebemi, oltre che il prezzo, perché su questo posso essere d'accordo, è il tratto. Cioè stiamo parlando di un'autostrada che non arriva a Milano e non parte da Brescia. Certo, perché a Milano si allaccia in un punto a est, diciamo, della città, attorno alla tangenziale est, tra l'altro forse neanche ben collegato, o sì, mi dica lei. No, decisamente non ben collegato, perché si arriva nella zona di Melzo, comunque. Essendo su una trasmissione nazionale non voglio fare riferimenti particolari, a mio parere l'unica infrastruttura intelligente che servirebbe alla Lombardia è qualcosa che faccia passare dal nord-est al nord-ovest, quindi un passante che eviti di passare a Milano chi da dalla mia direzione, cioè dal Veneto, si deve recare ad esempio in Piemonte. Ma non è quella il concetto della pedemontana? Più o meno. Non lo so, perché non sono un esperto di infrastrutture. Quindi, riassumendo, Alessio, lei è di Brescia e va spesso a Milano? Mi reco tutti i giorni, quotidianamente, per lavoro a Milano, come oggi che ci sto tornando, e volevo segnalare che nei rari momenti in cui mi trovo a fare il tragitto della Bredeni, ma è visibile purtroppo di me su Facebook, ci sono delle immagini inquietanti, ragazzi che la domenica si mettono a giocare a calcio in autostrada perché non passano auto. L'ho visto anch'io quel video lì, l'ho visto anch'io, sì. Senza contare poi che c'è stata la gara d'appalto andata deserta per le pompe di benzina, cioè Shell, Eni, IP, aiutatemi ad aggiungere, nessuno ha pensato che gli interessava mettere una pompa di benzina lì. Ci sarà un motivo, non lo so, magari ai petrolieri probabilmente, rispetto che ai solito guazzabuglio di imprenditori bresciani che vennero acclamati tempo fa. Fu presentato il progetto dal nostro amico Tremonti, furono acclamati, mentre invece oggi li troviamo a tre sconfitti. Io mi domando però che modello veramente di imprenditoria stiamo portando avanti. Se io faccio un investimento privato, spendo 24 milioni di euro, no 2,4 milioni di euro, e il mio investimento già per un terzo già è stato ammortizzato dallo Stato. Ma quando questa azienda andrà in attivo tra alcuni anni, andremo a chiedere il conto a questi soldi, o magari come è avvenuto nel caso Fiat, portano la ragione sociale in Inghilterra e di questi soldi che lo Stato, i contribuenti hanno sganciato, noi non vedremo nulla? Quindi siamo soci, noi contribuenti siamo soci di queste avventure imprenditoriali solo quando ci si smena. Quando ci si guadagna, improvvisamente le ragioni sociali migrano altrove. Grazie anche a lei, Alessio, buona serata. 800 24 00 24 se siete sulla Brebemi, ma anche no, insomma, e volete comunque raccontarcela dal vostro punto di vista, noi siamo qua. Africa, Mama Africa, we must all rise, sing together to fight Ebola. We must all arise, let's come together to fight Ebola. We are Project Ebola. We live in a world, my people, full of uncertainties, no security, everything be possible. It could be your mama, your papa, brother, your sister. Questi è George Weah nella sua canzone manifesto, insomma, contro, per sensibilizzare nella lotta all'Ebola. Una bellissima notizia con cui cominciare quest'anno è arrivata oggi dall'ospedale di Roma, nel quale era ricoverato Fabrizio Pulvirenti, medico italiano di Emergency, contagiato dall'Ebola in Sierra Leone e fortunatamente guarito e oggi dimesso dall'ospedale. Ne parliamo con Cecilia Estrada, presidente di Emergency. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, una storia a lieto fine, una bella storia. Sarete molto felici, immagino, avrete anche festeggiato forse. Sì, è veramente una bella notizia per cominciare bene l'anno. Oggi ce lo siamo un po' coccolato, abbracciato e abbiamo festeggiato a colpi di pizzette e cannoli prima di farlo tornare a casa. Lui, Fabrizio Pulvirenti, rischia ancora qualche cosa o lui personalmente è completamente fuori pericolo ormai? Sì, lui è perfettamente guarito, tant'è che è stato dimesso e che sta tornando a casa. Anzi, ha già detto che ora si deve riposare un po', perché naturalmente deve riprendere un po' di forze, ma ha già detto che poi vuole tornare in Sierra Leone. Questa è una cosa che può colpire, no? Uno dice, ma come, vuol tornare? Invece sì, e questo però, pensandoci bene, è doppiamente bello, perché vuol dire che nemmeno la malattia ha piegato una volontà, non voglio dire, perché anzi poi c'è una frase che voglio citare sua, che le voglio chiedere di commentare a proposito dell'eroismo o non eroismo, però ecco, questa voglia di ritornare in Africa lì, Cecilia Strada, lei come la giudica? Una cosa normale? Sì, ha voglia di, come dice lui, di finire il lavoro che ha cominciato, ma credo sia abbastanza normale. È un medico che non vede l'ora di poter tornare a fare il suo lavoro. Questa mattina sono arrivata allo Spallanzani prima della conferenza stampa, sono andata da lui e dopo 2 minuti di come stai stavamo già parlando di lavoro, per cui finito subito, diciamo, i convenevoli, si torna a parlare di lavoro, perché poi è il suo lavoro, la sua passione. Io volevo leggere questa frase che lui ha detto, non so esattamente, no, l'aveva detta qualche giorno fa in una intervista a Repubblica, credo. Non credo di essere un eroe, ma so per certo di non essere un untore. Sono solo un soldato che si è ferito nella lotta contro un nemico spietato. È una frase che potrebbe essere un po' anche una frase simbolo quasi di Emergency, una frase manifesto, cioè c'è la questione del non ritenersi degli eroi, per esempio, no? Sì, io lo dico sempre quando vado in giro per conferenze, mi sento spesso dire i vostri medici sono degli eroi e io nego sempre, dico no, non sono degli eroi, non vogliono farsi chiamare eroi, sono semplicemente delle persone normali, dei professionisti, medici, infermieri, logisti, tecnici di laboratorio che fanno il loro lavoro, l'unica differenza è che anziché farlo qui a casa lo fanno in posti dove c'è molto bisogno, non sono degli eroi. Devo però anche dire la verità, sì, che in questo momento in Sierra Leone, visto tutto quello che stanno affrontando i colleghi, in questi giorni quando sento, quando qualcuno dice i vostri medici sono degli eroi, lo lascio dire, non nego, immagino. Per una volta non dico di no. Io dico anche un po' giustamente, anche perché mi viene da chiedere questa cosa qua, cioè non saranno degli eroi nel senso che ci ha appena spiegato Cecilia Strada, però cosa spinge veramente le persone in un partendo da un paese come il nostro nel quale spesso diciamo la lamentazione sulle cose che non vanno, anche questioni che giustamente vanno sollevate, però diventa spesso soverchiante rispetto invece a tutto il resto. Cosa spinge a buttarsi in un'avventura del genere le persone? In questo caso penso semplicemente alla responsabilità, la consapevolezza di poter fare la differenza, perché in Africa occidentale per fermare l'epidemia servono medici, infermieri, servono letti di isolamento, servono tanto personale sanitario per riuscire a isolare i malati e poi a curarli, quindi la consapevolezza che anche una sola persona può fare la differenza, perché c'è talmente tanto bisogno di che ognuno fa la differenza. Questo unito al senso di responsabilità che ci dice che l'epidemia va fermata prima possibile, questo li fa partire. Cioè vedere coi propri occhi almeno una volta o capire veramente quello che vuol dire un'epidemia, per esempio in questo caso di Ebola in Sierra Leone, per un medico diventa una motivazione fortissima a non tirarsi indietro. Questo e a proposito di questo, perché curarsi in Italia di Ebola per fortuna ha avuto esiti positivi ed è possibile grazie agli sforzi che sono stati ricordati anche oggi dal ministro Lorenzin, ma insomma è la medicina italiana, ma credo che in Africa la situazione sia completamente diversa, lo ricordava lei. Com'è adesso il grado di difficoltà della situazione in Sierra Leone? È molto difficile perché in Sierra Leone continuano ad esserci almeno 60 nuovi casi di contagio ogni giorno, e a fronte del numero di malati e dei nuovi contagi ci sono ancora pochi posti letto e pochi operatori sanitari in grado di gestire il tutto. Poi c'è un problema naturalmente di livello delle cure, e noi abbiamo degli ospedali perfettamente attrezzati, abbiamo un centro d'eccellenza per malattie infettive in Italia, in Sierra Leone noi abbiamo costruito la prima terapia intensiva per il trattamento di Ebola, non ce n'erano altre. Quindi abbiamo aperto con fatica un posto in cui ci sono i monitor, gli infusori, i ventilatori, ma non è semplice, si partiva sostanzialmente da zero. Allora le differenze sono sostanzialmente queste: da un lato la disponibilità di strutture di livello elevato che in Sierra Leone non esistevano e tendenzialmente non esistono, dall'altro la disponibilità di personale sanitario, perché Fabrizio ha potuto contare sull'aiuto e sulla dedizione straordinaria di un team di 30 persone tra medici e infermieri, che però ho ringraziato questa mattina di vero cuore, però ecco 30 persone per un paziente, e in Sierra Leone le proporzioni sono più che inverse, per certo. Cui questo naturalmente può fare la differenza dal punto di vista delle cure che riesce a dare a un paziente del genere. E vabbè, naturalmente chi volesse dare una mano cosa può fare? Può andare nei soliti indirizzi, sui soliti siti e fare delle donazioni, cose di questo genere, insomma, ma questo penso che sia anche un po' scontato forse dirlo. però insomma, non guasta mai ricordarlo. Cecilia Strada, però recentemente il New York Times, con un'inchiesta credo proprio di questi giorni, insomma prima della fine dell'anno, ha sollevato il fatto che all'inizio della diffusione del virus ci sia stata molti errori, sottovalutazione anche da parte di istituzioni, di organismi importanti, che hanno sottovalutato molto insomma, il rischio dell'epidemia di Ebola. Condivide questa analisi? Beh sì, è assolutamente così. Se pensiamo che il primo caso di questa epidemia è stato nel dicembre del 2013 in Guinea, e che la roadmap dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per Ebola è arrivata il 28 di agosto del 2014, ecco, ci sono stati 8 mesi di ritardo nell'intervento, e questo ovviamente ha comportato l'evolversi e il dilagare di una situazione che non poteva più essere fermata. Ma è come è spiegabile questo ritardo? Per una sottovalutazione, una distrazione seppur grave, oppure perché eravamo in Africa e quindi c'era un valore anche forse della vita umana, un'attenzione diversa rispetto a quello che sarebbe successo in Europa o in America? Sicuramente se ci fosse stato un focolaio di Ebola a Parigi ci sarebbe mosso in un modo diverso, ma lì un problema per esempio strutturale riguardo i tagli che ha subito il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni, come dicono dalla stessa OMS. A Ginevra qualcuno dice: beh, abbiamo interi uffici che sono vuoti, città fantasma, hanno perso centinaia di persone che erano dedicate esattamente al controllo dell'epidemia e all'intervento rapido in caso di epidemie. I tagli hanno avuto anche questo effetto, purtroppo, e ci siamo mossi tutti quanti con ritardo, nonostante l'organizzazione, la comunità internazionale, diciamo, e l'OMS sono mossi evidentemente in ritardo, nonostante molti appelli e allarmi lanciati da chi era sul terreno. Adesso però lo sforzo che c'è, al di là di quello che fate voi, Cecilia Strada, come lo giudica? Uno sforzo coordinato, sufficiente? Si sta facendo abbastanza o anche qui ci potrebbe essere qualcosa di più che viene fatto a livello internazionale, sto dicendo? Penso che serva ancora molto, in particolare serve agevolare il personale sanitario, serve che la comunità internazionale, chi può, metta dei soldi per nuovi posti letto o anche per programmi di prevenzione nei villaggi. Sono ancora delle zone in cui ancora non c'è piena consapevolezza di che cosa sia il virus, di quali siano i sintomi, per cui devi rivolgere immediatamente una struttura sanitaria, e anche dove c'è consapevolezza tante volte non è la struttura sanitaria. Per cui si è fatto in questi mesi, si è lavorato sugli operatori locali, sui volontari nelle comunità che vanno in giro all'interno della loro comunità per fare attività di prevenzione e di formazione, però si può fare ancora molto, per esempio costruendo dei piccoli avamposti. Noi abbiamo aperto uno in un campo di sfollati di 22.000 persone, un posto di primo soccorso in cui appena qualcuno sviluppa il sintomo può avere un trasferimento in ambulanza verso un centro, perché naturalmente il problema è, da un lato, sapere qual è il sintomo che deve spingere a correre da un medico, dall'altro il problema è trovare un medico. Grazie Cecilia Strada, presidente di Emergency, noi tifiamo per voi naturalmente, grazie ancora e auguri. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, 800 24 00 24, cari amici ascoltatori in linea. Chi abbiamo a cui dare la precedenza? Niente, abbiamo un ordine sparso e allora andiamo con Elisabetta da Roma. Sì, buonasera. Buonasera. E innanzitutto auguri e buon anno. Grazie. A Radio 24 che seguo da tanto tempo con tanta passione. Allora, a proposito di Franceschini, io sono basita, perché quando cadde quel cornicione a Pompei e c'era il povero ministro Bondi, io vidi un ministro Franceschini che con una demenza, con un'arroganza, con una prepotenza chiese le dimissioni del ministro, che poi, scusi, il cornicione non è un fatto amministrativo, chissà quanti cornicioni cadono continuamente, e poi invece così è andata a finire. Il povero Bondi, che poi è sparito nel nulla, perché io fossi stato al posto di Bondi adesso attaccherei il ministro in una maniera incredibile. Ma scusi Elisabetta, ma perché adesso mi sta paragonando il cornicione di Bondi con Franceschini, non è crollato nulla adesso. Con tanta veemenza Franceschini aveva voluto le dimissioni di Bondi per un cornicione. Vabbè, ma queste sono cose, diciamo, tra politici, vabbè, ma adesso, adesso che c'entra... Scusi. Ma da quando c'è lui, troppe cose sono successe a Pompei, e adesso dice... Ma cosa è successo a Pompei? Ma continuamente, tutti i giorni leggiamo sul giornale altri cornicioni che cadono. Ma dove, ma quando? A Pompei, guardi, lei lo sa. Guardi, noi stasera abbiamo parlato di altro, Elisabetta, nessun cornicione è caduto a Pompei, quindi si sbaglia, non mi pare che nelle cronache ci siano cornicioni caduti negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, mi scusi, non era questo il punto, si era parlato degli orari di lavoro, ma non di quello che dice lei. Paolo da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire sulle false malattie dei lavoratori. Sì. Secondo me bisognerebbe ribaltare la normativa attuale, addebitando i primi 3 giorni di malattia al lavoratore, dal 4° giorno in parte al lavoratore, in parte allo Stato, e così via, riducendo quindi l'addebito sul lavoratore, ma sicuramente non coinvolgendo l'azienda. In questo modo ci sarebbe una bella dissuasione rispetto alle malattie false. Sì, ci sarebbe magari qualcuno che sta in malattia per motivi veri, che perde qualche giorno di stipendio, però lei dice è un prezzo che possiamo pagare per incastrare i finti malati, questo è possibile. Le malattie vere non durano solo 3 giorni, durano di più. Sì. Se poi capitasse a un lavoratore una malattia che lo colpisce per 24-48 ore e basta, e questa malattia si ripetesse ciclicamente, attraverso esami specialistici, approfondimenti... Bisogna accertare che tipo di malattia è quella che colpisce 24-48 ore nelle prossimità delle feste. Ecco, fra l'altro. Ma dico, se proprio ci fosse, se un lavoratore avesse una di queste malattie, attraverso un approfondimento diagnostico lo potrebbe dimostrare e avrebbe la sua salvaguardia. Va bene, Paolo, sì, si voleva aggiungere qualcosa. No, la sua proposta l'hanno detta già anche altri ascoltatori. È un modo per disincentivare la finta malattia, è ovvio. Non c'è niente da fare. Volevo segnalare che il lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista, non ha un beneficio di questo tipo. Ma si potrebbe prevedere, perché se io non vado a lavorare ho un grosso danno, io non posso essere malato, io non ho il diritto a essere malato, quindi si potrebbe per esempio prevedere che quantomeno il lavoratore autonomo abbia un risarcimento pari al costo del proprio collaboratore, sempre meno del costo reale. Sì, Paolo, questo non aggiungerebbe molto al tema delle finte malattie, però è una proposta, diciamo, di parificare lavoratori autonomi sul tema della malattia agli altri. Grazie. Osvaldo da Milano. Sì, buonasera a tutti voi. Prego. Allora, io in parte sono stato preceduto da Paolo, perché anche la mia proposta era quella di non pagare i primi 3 giorni di malattia. Sì. In effetti anch'io sono autonomo, a me non pagano mai la malattia e posso dire che si vive lo stesso. Mi dispiace per quelli che magari realmente si ammalano e si vedono decurtare 3 giorni di malattia, però... È questo il punto, no? Cioè, bisogna capire se non c'è un metodo meno drastico, ma soprattutto meno che punisce tutti, anche quelli che magari 3 giorni all'anno sono malati veramente e devono perdere 3 giorni di stipendio. Lei dice, dal suo punto di vista, il lavoratore autonomo, a me non me li pagano mai i giorni di malattia, e quindi per lei è la norma. È la norma. Inoltre ti dico, io ho fatto 5 anni in ATM, no? Dal 95 al 2000, e ti posso dire, è molto complicato, perché quei colleghi che si vantavano di non far mai Natale al lavoro, e lo sapevamo benissimo che andavano in malattia, poi ricattavano sia i rappresentanti sindacali, che quindi li proteggevano poi durante un'eventuale visita fiscale, no? Perché c'è stata una volta che c'è stata proprio un'alzata di scudi, ma soprattutto questi personaggi qui sono ambigui, perché poi si caricano di straordinari durante l'anno, e per cui, per la mia esperienza in ATM, lo stesso ufficio personale non li andava ad attaccare sapendo che erano finti malati, perché nel resto dell'anno gli copriva le spalle, perché facevano gli straordinari laddove loro avevano bisogno, capisci? Erano proprio dei lavoratori che a chiamata arrivavano e gli risolvevano il problema. Per cui quando poi fingevano una malattia, l'ufficio personale chiudeva gli occhi, perché dicevano, a me questo serve durante tutto l'anno e mi permetto di lasciarlo a casa anche se so che non è malato. Per cui, capisci, è difficile stirpare questo fenomeno. L'unica cosa, anche secondo me, è non pagargli i primi 3 giorni. Magari qualcuno, per le economia di gestione, diciamo così, della ci propria penserebbe propria. Due volte. Grazie Osvaldo, buona serata, grazie. Andiamo con Iari, forse, dalla provincia di Vicenza, buonasera. Sì, buonasera, grazie per la convocazione, intanto complimenti per la trasmissione. Quelli che convocano sono quelli tutti convocati, a dire la verità. Sempre, adesso non ci faccia, non, ci quindi, fa... non rubiamo il mestiere a Carlo Genta, però va bene, è convocato anche lei. Io telefonavo in quanto sono un collega, un vigile urbano, in provincia qui di Vicenza, e da 12 anni. Niente, quello che ho sentito ovviamente mi ha un po' abbattuto, nel senso che è brutto sentire che adesso tutta la categoria viene presa di mira da parte di queste persone. Cosa dire? I controlli sono difficili, lo sappiamo benissimo, fare i controlli è sempre difficile, è una questione più personale la mia, più uno sfogo personale, perché se i miei colleghi avessero fatto una cosa del genere mi sarei sentito ecco, però mi dica offeso. Una cosa, Iari, mi dica una cosa, lì, lei è in servizio dove? Nella città di Vicenza o in provincia? No, sono in provincia di Vicenza, Montecchio Maggiore. Montecchio Maggiore, benissimo. Ora, non l'anno so... scorso io ho fatto servizio 2103 Capodanno. No. Lo so, anch'io stavo benissimo a casa con la mia moglie e i miei familiari, così, però in rotazione mi è toccato. Cosa vuol dire 2103? Siamo montati in servizio alle ore 21 sì. del 31 e siamo smontati alle ore 03 del, del primo. Era l'orario. Sarei stato benissimo a casa, però era una rotazione, lo facevo da 4 anni. In quanti eravate a fare questo tour? Eravamo in 3 su un comando da 16 persone. Ma era il quantitativo previsto o c'è stato qualcuno che ha fatto il furbo? Nessuno ha fatto il furbo, però volevo un attimo riagganciarmi, anche se può centrare più o meno. Abbiamo avuto in passato un collega che puntualmente ogni mattina arrivava in ritardo, ogni mattina. È stato avvisato la prima volta, è stato avvisato la seconda, alla terza, quarta, quello che è, gli è arrivata una bella lettera di richiamo. Ora, può sembrare una stupidaggine, però è come nel calcio una ammonizione. Come dire, attenzione. Adesso ti faccio una lettera di richiamo, sappi che alla seconda lettera di richiamo c'è il provvedimento. Sì, ma poi scattano anche dei provvedimenti, ecco, quindi sì. Secondo me è giusto, proprio ripeto, è giusto fare così. Perché ma certo così, che è giusto, sono d'accordissimo con lei. E questo suo collega che arrivava in ritardo, ma quanto arrivava in ritardo? 10 minuti o mezz'ora? Puntualmente 10-15 minuti, però insomma portava anche dei disagi per il collega che montava in pattuglia insieme, portava dei disagi anche sull'ordine di servizio, perché magari appena subentrato in servizio devi recarti subito nel tale incrocio per fare della viabilità, quindi slitta un po' tutto. Anche quello può sembrare una stupidaggine, ma se fosse stato Iari, se fosse stato diciamo un assenteismo da finta malattia giustificato, però cioè diciamo spiegato e motivato da questa protesta strisciante nei confronti di una riorganizzazione del lavoro che era osteggiata lì dal personale della polizia municipale, sarebbe più giustificabile secondo lei o sarebbe sbagliato lo stesso? No, secondo me è sempre giusto punire chi fa il cosiddetto furbo. No, poi è difficilissimo dimostrarlo, perché come ha detto un telespettatore, un radiospettatore prima, se questi qua nel pomeriggio alle 4, alle 5, magari dico io subentrano in servizio alle 19, ti chiamano, hanno mal di testa, hanno mal di pancia, hanno qualcosa, come fai tu? E magari ti dicono ti porto il certificato il giorno 3. È difficile, però voglio dire, su tutti quelli che sono rimasti a casa, tutti hanno chiamato il pomeriggio, tutti avevano il cosiddetto mal di pancia dell'ultima ora. Grazie. Sarà stato anche qualcuno, per cui in quei casi i controlli che ricordiamo in Italia ci sono, perché io prima di lavorare in questo settore ero in una ditta privata, ho avuto un controllo a 5 minuti dalla scadenza dell'orario, ecco, è arrivato quindi il dottore, avevo ma è giusto, ma è normale che sia così, i controlli ci devono essere e non bisogna assolutamente sorprendersi, anzi c'è da sorprendersi se non ci sono i controlli, perché sai, se i controlli non li fai non potrai mai pescare nessuno. Poi puoi dire, ma con i controlli non fermi l'assenteismo. Beh, magari uno ogni tanto lo peschi, no? È giusto così. Andiamo, dove andiamo? Matteo da Trento. Buonasera, Matteo. Ti chiedo scusa, io non porto tantissimo ottimismo con questa telefonata, però io vedo un po' che il disegno della Brebemi non è molto innovativo, ma secondo me si verificheranno le seguenti cose. Ovvero, loro non a caso non hanno fatto da Brescia a Milano completa, ma mancano i pezzi di collegamento alle due città, perché ora tra un po' inizieranno a lamentarsi che loro il progetto l'avevano fatto, ma la gente ha deciso di non utilizzare l'autostrada e chiaramente i prezzi sono alti. Dopodiché intanto passeranno alcuni contributi da parte dello Stato, finché probabilmente la società privata dichiarerà fallimento, venderà la cosa, lo Stato acquisirà e poi finirà che lo Stato farà anche i due pezzi mancanti, alla fin fine l'affare l'avranno fatto la società privata che ha costruito, diciamo, questo impianto di autostrada ancora da completare. Ma io spero che non si concluda proprio così, perché sarebbe aggiungere, come vogliamo chiamarla, prima ho usato un'espressione poco elegante, coglionaggine, perché qua già abbiamo aggiunto 360 milioni, è un costo che è triplicato, 360 milioni di soldi pubblici dei contribuenti. Io spero che qui si interrompa la tiritera, assolutamente, però come dire, Matteo, visto i precedenti, quello che dice lei è anche in qualche modo realistico addirittura. Poi io per deformazione cerco di essere non pessimista, ma insomma, io vedo un orario da giornale radio, però che faccio? Un altro ascoltatorino. Dai, facciamo Pasquina da Ferrara. Io sono qui. Prego. Dunque, per il Presidente della Repubblica io scelgo Franceschini. Ma lei è di Ferrara e Franceschini è della sua città. No, ma anche se dopo dirò anche perché, ma perché è un politico, insomma è una carica troppo importante per lasciarla a un non politico. A lei piace Franceschini, ma lei lo conosce personalmente, lui è delle sue parti? Guardi, lo conosco da ragazzino, era nella scuola di mio figlio, quindi sta a Ferrara, una piccola, ci si conosce tutti, ma conosco così per salutare, però non sono del suo partito. Grazie Pasquina, da Ferrara. È tutto con calma, ma stiamo per concludere. Allora io voglio ringraziare Giorgio De Luca, Lucia Tolve questa sera in redazione, Filippo Reggi in regia. Domani a noi, io con voi ascoltatori e anche Carlo Gabardini, ci ritroviamo il 9-10 gennaio. Ciao a tutti, auguri, buon anno.